sai cos'è? Che con quell'apparato adesso non ti riconosco tanto. Ebbene, novità. È novità che mi vogliono far togliere l'antenna anche. Asco, devi andare a cagare, se no denunci per stalking. Chi è che ti vuole fare togliere l'antenna? Magari i succuglioni. Ehi, c'è molta gente, non mi vogliono dire chi è, chi non è. Sono anche vigliacchi, no? Facciano come credono. Io sono qua con l'omologato, vi sto aspettando, vengono a controllarmi. Ad Aburi di non si è giù stalking e voglio i danni. Tu paghi il canone, no? Come la TV, puoi modulare, non devi levare proprio niente. Ma carità, gente ignorante proprio. E allora, ho chiesto a quello di fronte se vuoi su per non disturba nessuno qua. Disturbo a quello di rondo e basta. Allora se non li posso usare. Sta mettendo disagio tra quelle donne vecchie che sono ignoranti, dice che l'antenna disturba a tutti, capito? Si chiama diffamazione quella, capito? L'hanno fatto anche a Gianni. C'era un elemento lì che ha fatto volantinaggio, è andato a dire a tutti che Gianni disturbava. All'epoca non c'era il reato lì specifico, capito? Adesso c'è invece. Che vadano tutti, anche qua l'hanno fatto, mi Natali, anche qua l'hanno fatto. Capito? È incredibile quello che riescono a pensare certi elementi. A me, se vengono a controllarmi, mi fanno mille sacchi di piacere, così mi rilassano il verbale che io sono regolare, e con quello, se dicono una parola, li sto denunciando per diffamazione immediatamente. Se io lo disturbo, si cambiano l'antenna quelli che disturbo. Chiamano il tecnico e si fanno fare un lavoro come si deve. E adesso me ne veniva quello che disturbavo proprio, il padre di quello lì. E mi diceva, Natali, mi sei dicevi bene, ma non è che si può fare che cosa? Non siamo stati andati alla capitoli e controllo. Già con se era stata l'antenna. Ma solo lui si è presentato con la prosopopea e con la prepotenza, avevo portato apposta. Per carità. E fottidini tu, modula e fottidini. Già lo sai, no? C'era un nuovo gatto, la tassa è pagata. Tutto quello che vuoi, contributo, si chiama contributo, ecco. Chi ha problemi si rivolge alle autorità, si paga l'intervento. E poi controllano anche l'impianto all'antenna loro, capito? È inutile che abbaiano, c'è un po' di gente che abbaia al vento, capito? Abbaia al vento, ma un cane che abbaia al vento non fa nulla. Chiedono l'intervento e controllano anche l'impianto TV loro. Quando scopriranno l'impianto TV è fragico o c'è qualcosa che non va, peggio per loro. No, a me mi interessa che loro puntino l'antenna al ripetitore, no? E mi fanno parlare. Se io non disturbo il furgone, sono tranquillo. Io qua ho l'amplificatore, cioè l'antenna, nella TV, dovrei disturbarla, no? Non riporto una striscia. Lo so, guarda, quelli di fronte a te hanno le antenne verso Monte Oro, no? C'hanno la tua antenna di fronte e non disturbi. È già detto tutto, se quello in fondo piglia disturbi, il problema è suo, capito? Bene, bene, bene, ieri non sono potuto entrare, stavamo tutto il giorno lavorando qua, pulendo, buttando roba. Se facciamo un giorno sì, uno no, oppure mantiamo il ritmo, però io mi stanco parecchio, per la schiena, capito? Mamma mia, quella cucina è rovinata, la cappa aspirante è bruciata, e sono da cambiare quelle cose là. Grazie. venire via e finisce la benzina nel coso, nel prende il bidone e finisce la benzina dal bidone, però io lo so fare, è da non usare via va, quando sono cuturrato erano tutti vaccinati, compresa la cuturita. No, allucinante. Eia, purtroppo. Mai cazzo esplode tutti i chili. Se pigliava la bombola, saltava la bombola, mi. Allora sì che ne faceva di danno. Adesso semplicemente c'è la cucina bruciacchiata, il coperchio più che altro, i coprifornelli, la cappa che alla fine non ci serviva, non l'accendevamo mai, e la credenzina piccolina, due sportelli, si anneritta. Capito? Poi se la cucina dovesse dare problemi, tipo che i fuochi sono rovinati, la cambiamo, pazienza, così si fa. Bene, e ieri siete entrati, Claudio sta entrando, tutti gli altri stanno entrando. Buonasera. Mia Gianni, caldo. No, quello è Eugenio, non è Gianni. Aspetta, provo a vedere. Eugenio? Ehi, buonasera, buonasera. Chi sei? Chi ci sei? Tu? Poi? Lo sento uno passo passo, chi è? Natalino. Natalino? Che è successo? No, nulla, sto usando l'omologato perché stanno già rompendo le balle i vicini. Capito? Stanno andando a dire a tutti che lui disturba, quando invece lui a casa sua e di fronte non disturba. Capito? C'è uno in fondo che ha problemi in antenna e si sta lamentando. Di cazzo, ma non lo sento. Ma di segnale lo senti? Anch'io ho 4 watt, me. Anch'io ho 4 watt eppure mi senti. Ma lui non lo sento proprio. Vero, non lo sento proprio. Ma di segnale o di radio? Ai morti. Oh, sa che a lungo arriva. No, mi arrivano a 7, 8, ma... Vabbè, stavo usando anche più watt, diciamo, dai. E io quanto ti sto arrivando? Per curiosità, un 4 watt. Vabbè, sono più in alto, una prova non vale. Sì, con picchi di 7. Aspetta un attimo, che no, ho uscito un altro. Eia, caro Eugenio. Arrivi uno, Natalia, Santiago 1. Quanti watt dà? 4 watt di là almeno quell'apparato. 5 ne dà. Sì, Santiago 1, pare strano. Ah, io arrivo 6. Vabbè, sarà perché sono più alto, però c'ho più cavo che da perdita. Oggi c'è una notte di riposo, dai, domani di nuovo. Mamma mia, non mi ci fa pensare Natalia che qua, poi ci sono gli stanzini pieni di roba. C'è un bel di roba negli stanzini. Se ci sono canotti dagli anni 90, tutta roba da buttare, vestiti che non usiamo più. Qua si tratta di buttare tutto quello che non serve. Bisogna fare spazio. Ci deve pensare tu, così è. Voce Natalia. Chi ci deve pensare tu? No, c'è mia zia che ci aiuta, che ha molta inventiva, molta... è molto battagliera, capito? Si sa organizzare meglio e quindi ci aiuta lì. Cappa. Purtroppo voce non ce n'è. Il presidente non riceve, c'ha quell'affare dietro che è difettoso e non riceve, quindi non posso usarlo. L'ho messo da parte, sta la roba, c'è qua solo questo qui e l'accordatore banca. Che cos'ha il presidente? C'ha uno spinotto dietro, un ponte praticamente, non lo fa ricevere. Oh, ma un ponte interno o esterno? No, esterno è. c'ha questo ponte che non lo fa ricevere, vuole rimesso a posto. Ho preso e ce l'ho schiaffato in un posto dove non si vede. Ah, quel problema, peccato però, se non potevi usare anche quello. L'importante è avere, vabbè, anche 4-5 watt, una radio un po' amplificata, ma non troppo, non c'è bisogno nemmeno di mettere radio fortissime in città. Poi io c'ho un filtro a 5 celle, te l'ho detto. Filtro a 5 celle, non è come il ZG, è molto migliore. Si può tentare a mettere anche quello, col baracchino più grande, e vedere gli effetti, solo che se uno non vuol collaborare, se parte direttamente Boganidutto, allora se la piglia in culo lui, scusa. E l'antenna mi vogliono far buttare giù, non hai capito? Che adesso va a prendere il figlio. Secondo come va, mi metto la boccata, li faccio a pizzo. No, digli che se li vedi buttando giù l'antenna già c'è il calibro 9 e il calibro 12. Il tagazzo può buttare giù l'antenna. Se loro riescono a farmi buttare via l'antenna, devono fuggire da qua. Perché loro fuggono, te lo dico io che fuggono. Qua non ci rimane nessuno di qui. No, non possono. L'antenna è una tua proprietà, punto. Non possono fartela togliere. Anche se ne scende Gesù Cristo, non possono. Dice che a uno gliel'hanno fatta togliere e si è fatto anche la galera, stavano dicendo, quelli di fondo. Lì si fa in culo. Sì. Loro. Mi viene qualcuno a controllare, no, chi e controlla e mi danno il verbale che è tutto regolare qua, se dicono una parola mi metto l'avvocato e li faccio il denuncio per diffamazione e per stalking, perché cazzo a me me ne è venuto quello lì, cazzo, prima la sorella, poi lui con la sorella a rompermi le balle, in Ogg non entra nessuno prima cosa, vi vuole un mandato di perquisizione per entrare qua. Certo. Sì, gli hanno fatto levare l'antenna e si è fatto la galera. Babba, è come quel galeotto che abita qua davanti. Che stava dicendo che aveva problemi suoi di legge, stava dicendo alla polizia, e dice, perché non elevate questo traliccio? Il traliccio era la mia antenna, per dire. Con la differenza è lui è un galeotto e io sono in regola, con documentazione e tutto, capito? Se si il traliccio di Beghiali Cieco. Me, te lo faccio dire alla mia moglie, ti dico da gli hanno fatto quello che gli hanno fatto il giorno. Allora, che ha detto questo spaziano? E a uno, perché questo spazio l'hanno fatto la scia e l'hanno fatto pagare una multa e più l'hanno messo in galera. No, in galera non ci va nessuno, a malapena ci va Corona in galera, non date credito a queste baggianate. Ma io già non li do credito perché lo so come funziona il furgone quando viene, mi usa l'antenna su Monte Oro, no? E poi viene un impiegato di loro qua e mi fa schiacciare la portante. Se io il furgone non lo disturbo, che lui riceve bene il segnale, si rapiglia in culo. Mille altro di potenziometri. Chi è tratto? Che è basso? Valerio, sei tu? No, Franco, no, niente, il paramobile è addosso. Arrivo lì? Sì, mi sento tutti e due, non molto forti, ma mi sento. Ok, Frada, sono con l'omologato perché disturbo uno, dice, e praticamente mi vogliono far togliere l'antenna. Sempre che sei tu, dai. Io ti ascolto che sono a lavoro, dai, ti sei bene, dai. Ehi, vai, Marco, dai. Ehi, ciao Franco, sì. Cazzo i potenziometri. Capito? Come ha sentito la parola? Ah, potenziometro uguale potenza. Ha capito che mente è letta. Un branco di ignoranti. tranquillo, capita in tutte le installazioni CB, c'è il solito o più di uno che ha qualcosa da dire, ma poi non ha da dire proprio niente. Claudio, a che ora sta entrando? Sta facendo i doppi turni? Sì, adesso fra un po' entra. Cosa ti volevo dire? Ah, e poi dovevo chiamarmi il tecnico e pagarmelo io. L'antenna, tutto, ma mi paga io. Secondo Luca Busu, io mi dico su Macu. Se per la notte cazzo, non finiamo a bocca di culo, ti fate di calare un durone. Non fosse la brua, a chi mi ha ciappato. No, non scendere al loro livello, non devi scendere al loro livello, giochi di mano, giochi di villano, capito? L'antenna li devi pagare, è gente che non capisce un cazzo di leggi, di cose, di regolamenti, crede che tutto sia come dicano loro, lasciali perdere. Adesso in questo momento io sono spiato perché la tipa c'ha il baracchino e mi ascolta, non hai capito che mi ascolta? E se mi sta ascoltando, vi lo dico già restando, mi pongo la bucata e mi dice già tutto, mi paga nei babbono, chissà uscia. A chi io non so chi, no? Io le leggi le conosco, guarda, se lui non sarebbe venuto con quella prepotenza non avrebbe più subito nessun disturbo, perché gli avrei messo l'antenna a massa bene, perché è senza massa quell'antenna, gliel'ha fatta un pasticcione sicuramente, questa antenna è pratica, perché l'ho aggiustata una volta a Franco io, in California, no, l'antenna. Col cambio da manetta non faceva una striscia da quando gliel'ho messa a mano io. Una l'ho dovuta sostituire per forza l'antenna che me ne farà da in mano mentre la giuducata, che era pratica. L'amplificatore ce l'aveva in terra. Ho preso, cazzo, gli ho messo a mano. Manco col cambio da quelle MC60, chi c'era non rivasi a più una striscia del televisore. Sì, so tutto. Entravano anche in radio, anche da poco sono entrati. Ho capito. Oh, io come sto? Claudio. Allora facciamo le volte di oggi. Ciao a tutti, buonasera. Quindi secondo te cosa ci fai? Bucane l'antenna, poi mangi quattro buco. Sì, ma è quasi comica la cosa, capito? Gli vogliono far levare l'antenna, voglio vedere come gliela levano. Infatti gli ho detto, occhio i calibro 9 e calibro 12, occhio. No, ma non c'è bisogno di quegli estremi, sto dicendo che mi metto l'avvocato e li faccio causa. E mi pagano i babboni di Saussa, se vengono a rompermi i coglioni così mi metto l'avvocato. Mi facciano fare il controllo. Io sono qua, mi sto aspettando. Quando vengono mi portano il controllo. Se io disturbo il furgone, cazzo, allora la stacco la terra. Se no, no. E mi pagano. Esco il radio, giù. Ah, vai, non ci viene nessuno. Guarda, per muoversi l'esco radio deve essere una cosa gravissima, deve scendere nel Cristo la croce. Non ne fanno più, non ne fanno più di queste cose, non ne fanno più, sono occupati in altre cose più serie, baracchino, non ne ha fatti più nulla. Sì, no, ma le pretese no, che deve togliere l'antenna, che gli devono rifare l'antenna TV a quello, hanno delle pretese assurde, fuori dal comune. Poi anche il modo di porci, no? Siamo capiti. Ehi, già lo so, era entrata qualche mese fa lì. La ragazza era entrata qualche mese fa, ha salutato tutti. Ah, io andiamo e me lo mettiamo mano subito. Ciao Claudio. Ciao, oggi buonasera a tutti comunque. E vabbè, se sta ascoltando a me io glielo dico in parole povere. Che tempo perso, capito? Tempo molto perso. Mi piace fatto a regola d'arte, non cucino a regola d'arte. Quindi giamba di antenna per non rompere i camasisi. E allora, te li immagini questi grandissimi connuti? Qui, io mandiamo Eugenio che fa MMA. Io sono pronto. Ehi, vengo anche io, che se no, se non meno le mani pure io, mi dispiace, capito, Eugenio? Ma tu già mi apri positivo la giura, non è problema. E dopo forse la prova di venire ai nocchi, chi da voi li cari di passare un duroni. Ma no, capito, lì tu sul televisore a uno del tuo palazzo. No, uno in fondo al vicolo. Ma c'è l'antenna di quelle di tipo vecchio, sarà senza massa sicuramente, praticamente. È logico che lo disturbo. E gli ho detto, bisogna che cambiate l'antenna, che ve la mettete a posto. La giusto. Ma calmo mi. Cazzo due, ci rubaghi tu, un tecnico, chiccio, chissà, pure a farli l'antenna io, in poche parole. Ci tiriamo le parti la base, se non fai quello che vuoi, denunciami, chiama polizia, carabinieri, fai un cazzo che vuoi, la giusto. Stai a ammazzarci. Ehi, cosa, se glielo dico magari mi prende in parola e si butta al ponte del Rosello, si picca come quello che stava, che, con quello che stava rompendo le palle a Gianni, chi si è impiccato? La difesa è il miglior attacco, quindi la sorganta a futti, continua a fare uscire di fatto e lascia perdere tutte le cose. Tranquillo, non ha niente da giocare, da spartire con nessuno, cosa ne ha tutti. Manco il baracchino che ho giambato io, ma manco balle mi interessa. No, vabbè, da, casomai dovessero venire a controllare, meglio essere tranquilli, capito? Me la putti nuda. Ah, da voi però, una volta sono giunto a controllare, ci devi venire da fare. Allora, pigliani coi papi. Ma chi deve venire a controllarti? I carabinieri non hanno assolutamente nessuna competenza, ok? Questo radio non si muove se non è una cosa appunto grave, quindi non 27, ma messi altre bande, eccetera. Ok, può venire la postale, ok, se viene la postale allora è un altro discorso, solo la polizia postale può venire e basta. Ma che vengano però, così se vengono io gli offro il caffè. Ma infatti glielo puoi offrire tranquillamente perché non hai niente da perdere, posso garantire io, tanto per iscritto, l'impianto è fatto regolare, l'antenna nuova, il cavo nuovo, perciò il problema è suo, se deve risolvere lui. E infatti poi io ho chiesto a quella di fronte, quella che stava tiffandomi, ho chiesto all'altro e non gli disturbo, poi dovrei disturbare a quello dove c'era attaccata l'antenna mia, no? Che è sul suo palo la mia antenna, c'ho l'amplificatore qua, non riporto una striscia al televisore mio, in tutti i canali, bella, che ho controllato, ma no con ghiso, no, con ghiso. Quindi maggior ragione di cosa ti stai preoccupando. Lascialo cantare, basta, come ti ha detto Marco, non ti abbassare le loro riveglie, a futtidini. Cosa te ne frega? Tu continua a fare quello che stai facendo e fregati. Poi per il resto se non vai già. Lui va. Ma dice stamattina ne sono entrato alle 5. Mamma mia, Turchi. Ho mangiato poco fa. Poco fa ho mangiato due piatti di riso e basta. Mi sono guisato, no, che mi sono guisato, non menti. Andiamo. Dove vuoi andare oggi? E tu rimani in mano. Ti rimango in mano? Tu ti rimani in mano a te. Hai capito? Ti rimani in mano, cosa devi... Quale spedizione vuoi fare? Voi, la sapete. Ero tranquillo. Ieri abbiamo travagliato, no? Non può fare a meno di venire anche oggi. Quindi penso che vi lascerò presto oggi. Per carità. Ah, io... Guarda, sono entrato un pochino, sono già verso le 9:10. 7:30 porto il cane, poi spengo tutto. Per le 8:30 c'è la partita. Sì, non vedremo prima. Gioca la Juventus oggi, anticipato a venerdì perché poi c'era la Champions, capito? Quindi mi guardo la partita, se riesco a vederla non lo so, e se no mi addormento perché lavoro anche domani e so che sarà come oggi, ma stanco, mi c'ho i piedi, mi fanno male tutti i talloni dei piedi, cazzo di tutti oggi a vederle, le abbiamo prese da noi. Sono una figata, una figata. Ah, basse, oggi quelle basse. Sì, sì, sono basse. E dentro hanno il memory, la solita memory. Non le siete nemmeno nei piedi. E il plantare è quello che comanda, se c'è il plantare in memory. Va molto bene, perché le mie sì sono buone, le ho comprate da Carboni, però mi stancano il piede, sono troppo, il plantare non è appunto, come si dice, riposante, è troppo, non va bene tutti i piedi, anche perché sono nuove, l'ultimo che ci hanno dato. Sì, mi sento parlare queste scarpe, ma non mi ricordo parecchio. Così chiama un po', però, cioè, se le scarpe, i quattro futuristi che si staccano il piede, non vanno bene, non vanno bene. Qua credimi, prendi le nuove compravo, sono allucinati. Ma 70 euro costano? Sì. Vabbè, noi le abbiamo pagato un po' di meno, perché ne abbiamo preso 60 franchi, però va bene. Sì, 60, 65 pare, o 70 euro, lì le avevo già viste, però non sapevo dove le vendevo, capito? Sì, beh, mi devo dire, tante volte dico sì, scusami, non è che, quello che ho io sono della Cateme, basse, però cantare non è buono, non è buono, delle scarpe, delle robuste, però no. Che ci sono quei plantari di silicone mobile o quelli, io me ne ho comprato un paio e sono eccezionali. Prova prima qui, così spendiate di meno. Ci sono in offerta, fino all'altro giorno erano in offerta, sono 9,50 euro. Sì, anche perché le scarpe sono nuove, capito? Non so se mi stringono o cammino male perché sono nuove, però mi posso provare prima col plantare così. Se vedo che migliora va bene, se no mi compro quelle là. Perché no, non ce la fa, io cammino un bel, sto un bel in macchina, capito? Sale scelti. Poi martedì e venerdì quando mi rientro da Regina Zana e dico di gira tutta una dirada fuori. E chi c'è più abituato? Marco, stai mangiando? Noni, sto aspettando visite. Ah, non avete finito ancora? No, abbiamo appena iniziato, sto scherzando. La cappa l'avete smontata? Noni. Ma dove esiste una bugattia? Sì, ce la farei infinita di robe qua. Dico, doveva passare solo alle 9:15, così. Adesso siamo in assedio tutta la sera. 3 ore in assedio. Poi non posso stare al baracchino tranquillamente, perché non lo sopporta nemmeno, capito? Non lo vuole manco sentire. Che è questa poesia? Sì. Sta sempre criticando, stai sempre con queste radio, con queste frequenze. Sì. Lei gli hobby degli altri non li capisce, non ci arriva proprio mentalmente a capire gli hobby degli altri, capito? Solo gli hobby suoi sono bellissimi, gli hobby degli altri non sono niente. Ah, bimbo, con la maglietta ti accudo la bacone. Vabbè, ma ci sta aiutando, cosa vuoi? Devo subire, come dico io ogni tanto, subisci. Marco, ma mi ha dato un po' la cazzo. No, solo la cucina e la cappa. E la cappa aspirante. E un po' la credenzina piccola sopra la cappa. Ma sì che hai pizza? Hai dovuto qualcosa? Cortocircuito? No. Qualcuna che non sta attenta, vero ma? Mette sempre piatti lì, vicino ai fornelli, piatti in plastica, confezioni di cartoni di roba, cose, è chiaro che ha preso. volta entro lì e ho visto la tela cucina in fiamme. Un fumo che c'era, devi vedere. E vabbè, così succede, vabbè. Eh no, l'avevo già avvertita. Non mettere roba roba combustibile vicino a fornelli. Niente da fare. Può succedere, dai, non fa niente. Anzi, una scusa in più per rinnovare qui la cucina. A me non succedeva di sicuro. Mai dire mai nella vita. Allora, Tari, ne buchiamo tutto? Comincia, la voglio io a figo. Mi ne capendo la risa, qua, non mi possiamo arrabbiare più, perché se la dico mi arrabbiaggio, guai, se mi addio guai. Potevo stare calmo, capito, è meglio che stia calmo. Tu devi fare, devi stare calmo per il cuore, non ti devi agitare. Perché se mi agito ne vieni in esercizio vicino a qui, vai pure in disegnani a gatto, a chi ti dici ignoranti, cazzo che l'antenna anche se non trasmette disturba. Mi senti poco di stronzati. Guarda Claudio, sono andati a dire che aveva tirato i fulmini alla sua antenna, l'avvocato li ha minacciati che avrebbe denunciati per diffamazione. Sono andato in giro a tutto il quartiere a dire che l'antenna di Claudio va a tirare i fulmini quando i fulmini sono caduti 200 metri più avanti. Mi ha solo avvertiti. Ti sto dicendo, anche io dice che ha tirato i fulmini. In campagna mi avrà detto, vai a rompimi i coglioni. Che ci sono questi parafulmini possibili e immaginabili, tutti i paletti di terra a ogni impianto, a ogni abilisti differenziali per attaccare un paletto di massa. Cosa cazzo? Li fulmini, una volta già è sceso il fulmine, ma non per l'antenna mia, è sceso che ha bruciato il motore del posto. Sai quante volte qua ha bruciato l'automatismo del cancello? Quando ho visto le direttive, capito? È stata una coincidenza che forse neanche un mese ce l'avevo, un temporale fortissimo, è caduto proprio qua nella cabina elettrica, ha bruciato la cabina elettrica, ha bruciato macchine, elettrodomestici, ha fatto un casino di Gesù Cristo, che se ne rende colpa a me. Zitta, ho preso tutto, ho messo la firma, fammi togliere l'antenna a me, a casa mia, ma è via di là. Ho preso la lettera che mi hanno mandato perché me l'hanno bucata, portata a navigare. Ha risposto al comitato, così si sono fatti chiamare, no? Poi c'era un portavoce. Come gli è arrivata la lettera, hanno voluto fare subito un'assemblea. In ginocchio si sono messi, in ginocchio. E allora, come te dico, chi l'ha mandato la lettera, chi mi provocava il panico, non so, a chi un trattore è entrato, invece di entrare, e noi è entrato nella strada privata di chi? Beh, lo sai che a babbo hanno fatto pagare i danni. Cazzo, chi il trattore va a entrare in lui è entrato in un'altra strada. Se arrivi da chitarrista e si è avvocato, si divide a me assassini. Ti hanno mandato un poco di errore, ti hanno chiesto un poco di cosa. Ma perché la gente è ignorante, capito? È ignorante, io ho subito circa 4.000 euro di danno al fulmine, mi ha bruciato l'effetti 1.000, nuovo. Scava a bagno, lavatrice, televisore, il computer, ho comprato tutto nuovo. E quindi cosa vuol dire? Poi a dato di fatto è successo che c'è stato un provocamento di questa cabina, quindi viene a risarcito l'80%, ma comunque ha risarcito a tutti. Capito? Cazzo, la colpa a me, ma no, per lì. A uno ha detto, quando mi vedeva abbassava la testa, ha detto, ma non riesci più a guardarmi in faccia? No. Ha detto, guarda, allora aspetta che mi giro, visto che non riesci a guardarmi in faccia, poi da me sciampa di lungo. Sì. E a Gianni, ti ricordi il volantinaggio? chiedendo di firmare petizione. Ma cosa credono di fare? Di entrare a casa tua e bugarne tutto. Appunto. Io ci ho detto mio, qui non devo chiedere permesso a nessuno. Non ho mai chiesto, non sono qua, né quando ero andando piano, né quando sono a secondo. Perché sia io che i miei suoi ci abbiamo preso tutto, sia da una parte che dall'altra. Quindi, di cosa mi devo preoccupare? Poi quello è stato il primo alla riunione, perché io sono andato in compagnia del mio legale, non si sa mai. Era il primo che si è alzato di fronte a chiedermi scusa. Devo chiedere scusa, sai perché no? Io ti accetto le scuse, ma tu sei un grandissimo ignorante, perché prima che aprire la bocca mi mette in moto il cervello, hai capito? Io uso la radio dal 1973, quindi non devi essere né tu né il condominio né nessuno a insegnarmi che cosa devo montare e che cosa devo usare, perché io sarei il primo, se disturbo, a prendere delle precauzioni, perché voglio vivere tranquillo e sereno. La domanda di scusa a tutti, alla riunione, sono state 70-80 persone, perché il mio avvocato li voleva denunciare per diffamazione, e quindi si sono un po' tirati indietro, capito? Perché avevano capito che hanno sbagliato. Poi quando è arrivata la lettera dell'Ener, che la cabina è andata in cortocircuito, quindi ha provocato il blackout, nonostante il fulmine, ha provocato il blackout e quindi ha disintegrato tutto. Allora si sono messi tutti tranquilli, hai visto, ci devono pagare, hai visto, ci devono pagare, che te tu a rendere la colpa a me. Ehi, ehi, ehi. Bene, vai Eugenio. Ehi, nel frattempo mi stavo guardando un paio di incontri di MMA. Che bello, che bello sport che ho scelto. Eugenio, è come se un giorno vengono a casa tua, bogani tutto, stai disturbando, ti chiamano i carabinieri, la polizia, e cosa gli rispondi? Ma non gli dico niente, cosa devo dire? Le dico, adesso, qua, faccia una cosa, lui si sposti, ma ti sposti. Allora, Marco, è la prima volta che mi hanno, perché mi hanno aggredito. Lei, tu quello lì, tu, lei, a me te c'è, lui che lei è vicino a Sirano, a vicino, ha detto che non ti sento, mi viene vicino a parlarmi, allora si è avvicinato, mi ha detto, tu, da quando hai messo quelle antenne, stai attirando i temporali, mi ha detto, ah, lui mi vuole vedere, ma di cosa stai parlando, di quelle antenne? Sì, sì, quelle antenne, quelle lì grandi, grandi, cosa sono? Delle antenne, l'ha detto, log periodiche, ha detto, sei preparato, a parte il fatto non è una log periodica, è diversa, quella è la direttiva 3.20. E poi qual è il tuo problema? Perché attirano i temporali, attirano i temporali, cazzo, gli dico, non sai che non mi sappia, sei preparato veramente. Ha detto, comunque sai qual è il funzionamento di quell'antenna, secondo me potrebbe funzionare meglio, non attira i temporali, la dighi ti bongo innanto all'antenna e ti voglio girare con un rotore, ma non ti avviti altro a calci in culo. Un tuo vicino era, no? E allora, proprio quello vicino a me. Ho detto, secondo me quell'antenna funziona bene, bene, non attira i fulmini di sentimento sopra, ti leggo con la fune e ti faccio girare col rotore. Mamma, poi quello è un condominio nutrito, mi. Sì, ma è l'ultimo di giungolo. Io ci abito dal 1985 qua. Non ho mai chiesto niente a nessuno, mi hanno sempre rispettato a tutti. Io a casa mia faccio quello che mi piace. Attento che non mi hanno mai detto niente, perché non ho mai disturbato a nessuno. C'è stato questa cosa del fulmine, da lì è partita questa come si dice, fesseria, perché più che una fesseria non era, e basta, poi non è più successo niente, anzi, anche l'altro giorno c'era il mio condominio, uno mi ha chiesto, ma il vento niente gli ha fatto le antenne, ma no, cosa deve fare, le persone ancorate bene, non succede niente, mamma mia, ragazzi, mi vai, anch'io, e gli ha detto, toccami le balle. Ce ne vai anche io, è tornato in là, devo ne vai, sono ancora per bene. di altre cose, anche l'amministratore da poco me l'ha chiesto. Ma stai controllando, su, sì, stai controllando, controlla, tira bene i cavi, tira tutto, che il vento soffia qua, soffiami, io gli ho detto che cazzo. Poi l'antenna volendo si può anche assicurare, lo sai. Stavo lavorando su Roger K, te la assicuri, ti fai un'assicurazione che è una cosa infinitesimale, una cosa simbolica, se cade in testa qualcuno paga l'assicurazione, capito? A parte che appunto va fissata bene, ma nel caso remoto dovesse cadere, fare danno, graffiare una macchina, paga l'assicurazione, capito? Non c'è problema, è assicurato tutto qua, capito? È assicurato tutto, non problem, interviene il condome, no, perché sopra è mio, quindi non c'è problema, è tutto sotto controllo, ma sono tutti, ripeto, prima di fare a me anche nei miei, sarà impossibile proprio, guarda, sono piazzate bene, la verità non l'ho qualificata io, ma hanno fatto il lavoro, però è fatto la regolarte il lavoro. Io l'unica cosa che sono dedicato anche ultimamente è tirantare bene, infatti a posto delle bike con dei tiranti normali ho messo quattro fasce di quelle a crichette, capito? Sono salito anche io, sono ancora tese come le ho tesate io. Quindi non c'è problema, la mantova c'è un tubo da un pollice e mezzo, sta fatta a muro da 3 metri, cos'è? C'ho 40 metri parato, cos'è? Le direttive sono a 5 metri, 6 metri, non c'è bisogno di salire all'impicco, basta che girino, va bene così, quindi no, non c'è quel problema di tralicci e balle varie, è stato fatto regolato il mio lavoro. Mi piace questa cosa a Natalino, perché abbiamo fatto un culo da un allucinante, perché mi si dia l'adresso. Io chiudo, ciao, ci sentiamo. Cos'è? Così a Denaccia Cadurano. Vabbè, ciao, faccio e chiudo. Avanti, genio. Mandargliela in corto l'antenna, no? Beh, certo che sì. Sì, si mette quello. Come che rispetto ti fanno a te? Fare toccare il cavo di quell'antenna ci vuole la scala, Natali. Non è che ci arrivi, capito? Quindi. Senti cosa ho detto? Quando ho quel condominio, ok? Cosa hai detto? Quando ho quel condominio, io abitavo al secondo piano e mi è passato il filo dell'antenna fino al terrazzo di quello che stava sopra i letti, diceva che io ho sempre i tuoi passi citofoni, mai i televisori, sempre i citofoni, e un giorno mi ha tagliato il filo con la forbice, ha proprio tagliato il filo e non l'hai ritenuta tu, qui si scappa la risa, poi guarda a Fusaro e mi aveva comprato tutto più 3 metri più cenere. Cosa hai servito? È un dispetto, poi ci deve rimettere. Vabbè, bianco per permetto a mangiare il cane, dai, a dopo. Io è uscito con la padrona, meno male. No, via da te. Non so manco se ce la faccio a portarlo, ti sono capito. Ma se lo devo mangiare, dai, a dopo. Mamma mia, come sto? E come stai? Adoro i giocatori. Sono prima tutti i garroni. A piantare il piede. La schiena. Facciamo tutto questo freddo, no? No, i sforzi in macchina, quindi mi sono lasciato una mano a fare una linea di polietilene, la presenza di polietilene, tutto che balla, che lo piene 16, ma sono alti di bracci. È un macello, Comunque le scarpe anti infortunistiche ho un numero più in mano sempre, biglietti lo mette così, a me non me ne pare fatto nulla paghissimo, anche se no non li puoi ributtare. Ma queste perché sono nuove sicuramente, perché sono nuove, Natalia, sono le altre che ho, quelle alte, queste sono quelle basse, quelle alte non mi fanno male, se sono buone sono raccatte, sono buonissime le scarpe. Perché le sono nuove sicuramente. E così. E vabbè. Marco è andato, ma la zia è arrivata. E se no ti pare che in realtà tu così. È venuto la zia e lui si è spento tutto. Io vabbè, quella è una scusa, trattamo è andato. Tutte e dieci. Allora, ho trovato la scusa, è arrivata la zia, qui e là. Trattamone è andato dalla piscina a rompere il chiamagigi. Ehi, sai, deve portare il pigiattino, capito? Infatti, sono già 10 mesi, il pigiattino, capito, la cena questa notte, qualche coperta, e c'è freddo. Sono qua, nel caso mi avessi chiamato. Io sono andato a dare a mangiare il cagnone, riprendi. Sono ritratto, siamo... Ah, se casa mia, se siete a casa mia che si sta per casa. No, io devo litigare con qualcuno, sennò abbiamo calcito. Ah, Dunia Sera, c'è piena? Ah, sta lucidante. Ah, sono amici di tua moglie. No, amici miei e voi. Ma ragazzi, no... Sono di sera notte. Sempre casa piena, che voi? Vabbè... Passa e fatti dai di là. Di là, sì. Allora, ma come ti toccano, con le mani, con le bidi? No, io tocco con le mani. Sogno brutto quello, ti ha toccato con le bidi. No, a casa mia davvero tocca con le mani. Se no è da aiutare. Ma uscì. Non so se esiste, quando viene a gattare mi raccomando, tocca con i piedi, rimane lasci sempre impignati a regà che costa. No, io già mi arrivo a macchina piena. A Lucia, quindi alloggio va bene, dai. Già va bene, adesso ti fai il ponte, poi sabato, domenica, lunedì, invece io mi lavoro domani, domenica riposo, lunedì lavoro. Ho reperito il burro con tutta la linea. 6, 14, 17, 24. Io già te ne bari. Anche mia moglie è a buona domani. Domani è a buona, però ci facciamo il ponte. Perché domani è a buona, domani notte vengono degli amici a cena. Io avrei preferito, come usciva la posta della camper, della all camper e poi ci siamo andati. Invece no, c'è gente a cena, anche io domani notte. E vabbè, oggi qui va, sei andata a uscire, pazienza, vuol dire te ne vai domenica a parte, lunedì c'è festa, ti fai domenica e lunedì, ma io ormai lavoro, non so neanche che riesco perché c'è un sacco di cose da fare, a fine mese, ho preparato tutti i registri per maggio, tutte le relazioni, tutte le cose, e niente, poi... Domani è sabato, vieni a riposo, per lunedì mi sistemo per le altre cose. Per lunedì penso di non uscire tardi, a luna di essere a casa, salvo complicazioni. Ah, sono bucato anche il moto, non riesco a portare la moto al gommista, cioè. Oh, e io volevo andare a portare a fare i freni. Non gli ho detto nulla. La sera quando arrivo non ho voglia. E anch'io volevo fare qualcosa, però mi sa che domani mattina ho il telefono. Ecco, passare a casa a prendersela. No, ma così mi cambia le pastiglie. Stamattina che penso che dalla prossima settimana inizia il tempo bello oggi, no? Sì, sì, ma già domani ha messo bello. Ma è sempre tipo vorrei, no? Oggi è tutta la via lì avanti, così è. No, oggi è un corrente maestro, non è un corrente maestro freddo. Da domani siamo a fare una cosa, l'anticiclone. Quindi caldo o freddo ancora? No, caldo. Punto di 27 gradi a mezz'ora. Studiamo. E stamattina sono passato da Castelsacco, mi sembrava allevante. Ho visto le bandiere di del coso, come si chiama, il punto premontana. Era nei d'Astentino, tirati di Astentino, guardi allevanti. Non so se è cambiato. È freddo, cazzo, quindi siete biati, anche stamattina c'era vento freddo. Sì, sì, beh, se tirano la fase di tiro, quindi è ponente, ma è ponente. Ho intanto gira, ponente maestro. Ah, eccoci, ponente, la sentina è ponente. Sono freddo, però, una giubbotta, due giubbotto, ma non bauci. Allucinante, siamo... 28 aprile, che aspetta domani, siamo a fine mese, speriamo che entri il tempo bello, almeno, sento un po' quella notte, K, va bene Natale, rietratta, ecco, c'è sta. No, negativo, non posso più fare un video, se arriva l'anticiclone delle Azzorre, fa caldo sì. Ma fammi comprendere, un microfono difettoso o se lui te lo tieni in gomma della vostra mano? No, ma ce l'ho vicino alla bocca, ragazza, è un microfono normale questo. Ho capito, ma sparisci completamente del radio, o ti ruidi, cosa ne so qui? Se te lo tieni vicino alla bocca ti sento bene, il radio è 5. A volte sparisci del radio. Magari non schiaccio bene, boh. Cosa vuoi che ti dica? Sì, ma se il presidente Lincoln non funziona, ma chi non ti va di connessione a issue? E avvirumi, perché Lincoln c'ha quel ponte esterno che bisogna aggiustarlo, perché come tocco quello riceve, però gatto anda e torna, bisogna rifarlo. Beh, fammelo vedere, se una cosa posso fare io te lo faccio, però non ho capito, se non presidente Lincoln non si trattende, o non lo vuoi acconsare, o non funziona, non si può acconsare, fate le connessioni, le MB più 4 a quello lì, almeno c'hai la radio buona. Che buoni, ti avverai di mani buone, si sa dove ce l'hai, c'hai tutto, c'hai il microfono normale e ti colleghi in fila all'MB più 4 uguale a quello normale. Non manco ti tengo di radio, ti sento bene, perché il segnale è buono, -9,20, non è che è più basso del solito perché la potenza è più bassa, però 6,9,20 di segnale. La radio è importante, anche se il segnale è basso, però c'è 5 di radio, va bene. Non è sparito totalmente, arriva anche a 1. Radio, faccio fatica a sentirlo. E oggi c'è l'omologato, qua provato. La posizione sua, quella tua, non è che sia, capito? Se lui solleva la modulazione e ti arriva, almeno di radio ti arriva, capito? Vai, che c'hai ospiti, vai. Ciao, Fra, bene. Ciao, Fra. Non mi risolvo, la patologia poco fa sul acceso, ho visto che è pieno di varie, diciamo Minorca, Maiorca, la Spagna, loro arrivano tutto l'anno, non ne hanno problemi. E dove si è sorso? Sono passato io alle 4 passate, 4.10, 4.15, dove il passaggio a livello, ma lì eri. Ehi, uiuiui, che turni massacranti, dobbiamo fare bacamparchia. Ehi, tutto sono passato io alle 4.15 a Sorso, lì dove c'è il supermercato, lo vedi tu? No, sono un po' più, Ah, chilometro 8, sì, quindi più giù. No, io sono passato a 10, mi trovo avanti, ho attraversato il passaggio a livello. Ascolta, quell'incendio l'hai visto stamattina? No, stamattina ero in Chile, stavamo provando il percorso per l'entrata, che c'è domenica, qui non stavamo parlando per quelle macchinose, abbiamo provato un po' di poste, di attraversamenti dei fiumi, stavamo nel circuito divertito. Ah, e c'è bruciato un canetto lì sotto proprio al chilometro 8. Vallata, stavamo facendo una ispezione di condotta, ho visto il fumo, poi sono visti i vigili del fuoco, partito un cannetto, ma c'era un bel vento e all'ora di punta, verso l'una e mezza, le due, quindi era anche pericoloso. Ma quello che c'è lì, sì, quello che c'è sotto, là, sì, quello lì. Esatto, infatti per quello ho detto se l'avevi visto. No, no, stiamo lavorando qua e quindi siamo un po' fuori dal mondo, eh. Gatta, gatta, ti saluta il geometra, eh. Beh, ci ha migliorato un po', mi hanno detto, sì. Sì, e arriva più di 9 qua, adesso c'è l'amplificatorino, e vabbè, però a casa sua l'altro giorno, a te salutarti. Già sta bene, è un po' acciaccato, ma comunque la testa ce l'ha a posto, eh. Mi ha fatto vedere un filmino della linea ferroviaria che stavate facendo nell'80, 89 mi sembra. Sarebbe andato con i dovuti modi e l'avrebbe messo a posto, invece ci è andato con la prepotenza e allora è chiaro che Matteo l'ha mandato a fare in colpa essa. Infatti non sarebbe andato con lo timore, diceva, ho questo problema, quando è montato l'antenna, cosa si può fare? Però sarebbe andato lì, avrebbe messo a posto, capito? Invece no, è andato con la prepotenza, con la maniera brutta, allora è chiaro che poi lì non si collabora. Abbiamo finito, abbiamo iniziato alle 3, abbiamo finito che erano le 6, o 5 e mezza, forse le 5 e mezza, fino alle 7 e mezza eravamo lì, abbiamo fatto tutte le prove, stazionari è zero, proprio zero, manco si muove l'aerosmith, capito? Ha provato sul televisore, ha provato quello vicino, ha provato quell'altro, di questo non si è sentito niente, dopo una decina di giorni ne è uscito, capito? Più esistere il problema, perché oramai è tutto digitale, però se c'hai l'antenna marcia, se c'hai l'amplificatore buttato così, eccetera, è chiaro che la vicinanza ti può creare dei problemi, però basta parlarne, capito, educatamente, se poi parti in quarta, allora pigli e t'ammazzi. Non ha nessun problema, fra, capito, non serve a niente, proprio non è attaccata alle antenne TV della sua palazzo, della sua palazzina, non disturba nessuno, questo in fondo al vicolo, proprio in fondo alla strada, è lontano da lui. Quanti metri? Sarà una ventina di metri, 30 metri, capito, però è un altro condomino, un'altra storia, non c'entra niente con dove ci sono le antenne TV di casa di Rattarino, capito? Un'altra cosa. Vabbè, si risolverà anche quello, dove ti dica. Natalie, ma lì, ho giunto Guido, è arrivata la moglie, sta parlando. Sì, ma infatti, quando è così potrei abbassare la vita, capito? Però ti ripeto, se le cose si mettono, insomma, si dicono con i dovuti modi, forse uno riesce anche ad aiutarti, no? A capire qual è il problema, a risolverlo, ma se parti in quarta, allora avesse fatto a me sarebbe stata la stessa cosa. Però io radio non ne avrei attaccato, tranquillo non ne avrei tolto. Beh certo che sì, abbiamo fatto di tutto per montare questa antenna perché era impossibile fare un'impresa del genere, abbiamo fatto di tutto, poi si presenta il Pisquano che vuole chissà che cosa, ma ci hanno avvisato l'antenna, usate cosa stai elemosinando agli altri. E io fra Catalino. Santiago 5, 5, 6. Facendo lì. state controllando quelle sbarre, praticamente dei passaggi che aprono e chiudono i proprietari? Come fai? Ma ti presenti tu? Razza di Cividio, cioè come che a me mi mettono a... cosa ti posso dire? A vedere se uno in campagna apre e chiude le saracinesche, ma cosa devo fare? Scusa, butta a me. Ma siccome il continente è freddo per una macchina, quindi sono normative europee, se non c'è la sicurezza, se io non avviso il dirigente, se no non può passare. Ah, ecco, proprio una normativa, ho capito, bella rottura di scatole però fra. E come avete assunto? Senza concorso? Sempre? Credo di sì, non sono sicuro, però non ho letto il fatto, però sapete, almeno un cento sicuramente. Ho capito. Vabbè, no, non sapevo niente. Sì, anche da noi stanno cercando di mandare via quelli che sono, insomma, gli sgoccioli, che ne manca poco, per appunto fare le nuove assunzioni, capito? Però è... titoli ed esame, quindi ci vogliono i titoli, se non ci avrei messo a mio genero sicuramente, però i titoli non ce li ha. No, ma qua non sono soggetti dell'azienda, sono l'azienda presente, come si chiama, quindi andiamo di meglio le informazioni, avete mangiato i 350 euro per mezza giornata qua, ma la giornata sono 8 ore quasi. E con l'interinale li stanno assumendo? Qua li chiamano così, questi amministratori non sono a ruolo, non sono dipendenti come lo vedo. Sì, con l'interinale. Ho capito. No, noi assume direttamente a Ciona, capito? Però è per titoli e esame. Cioè non deve avere i titoli, che poi c'è gli esami a Cagliari, però devi avere i titoli, se non hai i titoli non puoi partecipare. Una ventina mi sembra devono prendere, una ventina per sostituire quelli che quest'anno vanno in pensione, capito? Stessa cosa ti dico, io avevo fatto con l'ESAF il concorso, poi l'ESAF ha fallito, quindi abbiamo iniziato a saltellare da un'azienda all'altra, e perciò è così purtroppo, ma vabbè, però anche se assumono così fra come interinale vi alleggeriscono il lavoro a voi, cosa te ne affitti? Sì, sono in Ah, sì, come me, allora. arrivando forse a Sassi. Ok, va bene, va bene. Ho detto, fra, tu sempre alle manutenzioni sei, sì? Sì, noi siamo sempre nella rotabile. Che praticamente dove era Giuseppe? Dipendiamo dall'ufficio tuo, sì. Ho capito. Era lui il responsabile lì, in quell'ufficio. Sì, a volte tutto che ci andiamo rimanendo non tantissimi, però a volte non Sì, tutti in pensione sono. Cosa? Genio, dove sei arrivato? Genio. Io Genio, ne ho tante cebelle, ho impegnato la guida. Natalie, non sei uscito, Natalie. Non è uscito però. Natalino, dove Natalino? Che? Non lo so, ma non è lui. Ma ci vi, ciao, buonasera. Non è lui? No, no. Ci andiamo un po' di verso qua. Questo te dice. Perché c'è l'omologato? C'è l'omologato, quindi esce basso. Il segnale si è abbassato un bel, capito, mai da Massimiliano arriva più basso. Lo senti a Franco Massimiliano che è lì a sorso parcheggiato fermo a ferrovia. A voi lo sento, 9.15. Ma no, non penso no, che arriva quanto è il tuo segnale, quanto è la tua segnale in radio. Stai dicendo Massimiliano? Eia. E come fai a sentirmi allora? No, sotto di te c'era la portante. Santiago 9 qua. Ma qua è 9.20. Sì, ciao Franco, vai, buonasera. Scusa, non ti ho salutato ancora. Va bene, va bene. Va bene questo baracchino? Sì, alla grande. Ma tu cosa avete? Tu Franco di Gianni, eh? Siamo stati dicendo a me, figlia di Rengomo, le vostre mani. Vabbè, poi io so ce l'ho di fronte, va, capito? Non ma giù su due condotto, capito? Papa brioscia, come dice qualcuno. Va bene, riprendi, Claudio. Ehi, ehi, no, voglio capire chi è questo che non esce. Avanti, chi vuole entrare? Ah, già ne c'ho qui, c'è sta pronta a Santiago 9, ah, questo è Natalino, Natalino, questo è Natalino, era Massimiliano. No, questo è più basso, non so se sto usando qualcos'altro, ma qua era molto più basso, l'altro era 9.20 qua. Aspetta adesso, va bene, riprendi fra. 68 cioè. Perché il segnale qua è stato fatto qualche lavorettino dentro qua, capito? È un bel lavoro che ho fatto. Sì, sì, no, no, va bene, va bene. Non ci ho abbinato un microfono amplificato, capito? Forse spegni anche un po' per quello. Samurai, nella famiglia dei Galli. Galaxy Blu, Tornado, con la centaglia lì così. Sì, sì, è proprio quello, è la famiglia della Intec, ho detto. Sì, però non riesco a capire come mai ci abbiano messo questa colla sopra il trimmerino. Dovrebbe essere il trimmerino, forse ce l'ha anche segnato, per la ricezione dovrebbe essere RV1, RV7 forse. Si regola, va lì, c'ha proprio il trimmer, capito? Tu quando apri lì ci sono tutti i trimmer e li vedi, capito? E per esempio il VR13 ti regola il watt, il VR16 la radio, il VR14 la modulazione, poi c'è quello per l'FM, va tutto regolato con trimmer. Lo smette. Quello è per mantenere l'asta dello smette, mi fa. Se lo tocchi lo rompi. Chi è? Chi è che vuole entrare? Sai cosa ne so, due che vuole entrare, ma magari qualcuno che sta provando e non lo sta uscendo. Ma questo era più alto, quanto è te? 9,20. Non lo so, comunque aspetta, se trovo l'agendina, tanto all'interno come è uguale al Tornado, quello, se trovo l'agendina ti dico che trimmerei per regolarlo. Sì, sì, c'è VR1, VR2, VR3, VR7, VR8, sono tutti numerati. Hai finito? Hai finito? Fregatene che la tutti i dirmi, vuol dire non mi hanno per le scatole. Tanto non ti fa niente, non passa neanche sopra di Franco, figurati. Non fa nulla. Sì, sì, no, sono tutti numerati, capito? Tutto, magari ti metti lì qualcuno in ricezione, guarda il segnale e vedi l'ago che si sposta, capito? Ti metti magari in una posizione dove ti metti di solito, capito, dove ti metti di solito, magari cosa ne so, provi con Claudio, che sa che Claudio ti arriva quel segnale e te lo regoli, capito? Così puoi fare, anche in stazione di viso va bene. Ok, riprendi Claudio. Sì, infatti da te come fai a regolarlo? Bisogna, per dire, portarlo qua e regolarlo col segnale che io ricevo col 440 a Coso, a Massimiliano, e fare la stessa regolazione. Qua ci vuole l'antenna grande, capito? Per farlo bene. Di queste dimensioni qua, che sia affidabile, capito? Avanti Antonello Pomponio, cosa c'è? Buonasera. E questa portante? Già ne gioco, tanto che provendi. Hai portato di vedere che provagli? È un bel 30, Massimiliano, ti crepa. Hai qualcuno in macchina sotto casa tua, allora? Già ne gioco, 9,40 l'Antonello. hai bisogno di qualcosa, stiamo disturbando, ti dà fastidio la nostra voce, ci fai capire qual è il tuo problema, non so se sono indiscreto. Cazzo, già pensa poco se hai tu, uomo, è appena appena più basso. Sei solo presente, è più basso appena di te. Ma dico, se c'è qualche problema, stiamo facendo male a qualcuno, stiamo disturbando a qualcuno, non so, stai facendo delle prove, vuoi un controllo, siamo qua, c'è bisogno di mettere a portante. Non riesci a comprendere, sì, ma la voce ho 40 canali proprio lì, sì. No, ma è una cosa fatta apposta sicuramente, presentati, facci capire chi sei, chi non sei, perché insomma, i segnali così alti si sa, poi se ci sono gli Antonello che i segnali sono intermedi e qualcuno qua vicino a noi, c'è qualcosa che non vanno. Sì, magari anche tu, mi azzurro, la tengo in macchina, sa, se vuoi questo. C'è qualcosa che non va, basta dirlo, non siamo qua per risolvere i problemi, no? Non penso che ci sia niente di particolare, ma metto la portante quando uno sta parlando, mi sembra una cosa da maleducati. È finito, possiamo parlare? Vabbè, riprendi Antonio. Però più basso di te, quindi tu devi essere qua vicino per forza. Figurati. Andava avessi auto del tutto tipo da scucciti. Ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. Avanti, fra. Non so se mi ascolta, ma mi ascolto un po' facile, un po' lontano. Faremo bene. Hai sentito a Franco, Antonio? No, un bel passo, cosa ha detto? Che in barra mobile lavoro nella zona di Sorso. Capito? Ok. No, ma infatti aveva, Antonio, la stessa cosa ti dico. Leggermente più basso di te, quindi ho capito che era qua vicino a noi, ma se c'è qualcosa che non va, basta dirlo. Non ci sono problemi. Avanti Massimiliano, non ti ascolta Franco, non è che... avanti Massimiliano. Antone, che cos'è, che trimmer bisogna toccare del Samurai per regolare lo smitter? VR, non me lo ricordo, ce l'ho segnato nell'agenda e non trovo più l'agenda. Il Samurai se ne dimentica qualcosa del 2009, aspetta che ti prendo l'apparecchio, aspetta un attimino, te lo dico subito. Quello dello smitter. Perché piglio di la lettera di grande in mezzo, se lo senza principio ci vedo un cazzo. Allora, Smith VR8. Aspetta, ma VR8 è in ricezione? Sì. Ok, hai capito se basso mi fa. Per regolarti lo Smith, VR8 c'è scritto, ok? Grappa Roger, positivo d'aria. Avanti Claudio. Sì, che Franco è controlli lì, ogni tanto si deve allontanare. Samurai, non me lo ammetto, ma né chi è che ne aveva, forse tu ne avevi parlato, che era uguale al 2009. Tutto Samurai agentato, come il 2009 agentato e c'ha i pulsantini come il Galaxy Punto, sono tutti uguali, tutti precisi, sono il Tornado, il Tornado 4005, tutta quella serie così, no, Tornado 4005 non ne ha di pulsanti, aspetta che mi ha detto di sì, mi hanno mandato un messaggio, aspetta. Cosa fa? Stavo dicendo, quando tu ti apri la radio, per regolarti lo smitter devi toccare il trimmerino VR8 per la ricezione, ok? Sì, sì. Ricordati di mettersi un cacciavite, se possibile, non induttivo, cioè quello in plastica, quello vuoi chiamare, se possibile. Negativo. Cosa? Dipende da te quello che ho capito. Quello dipende da te. Trappa Roger, chi è che ha detto relativo? Io, il Vulcano Gigi, buonasera. Per regolare, se tu devi ascoltare a uno e regolarti lo Smith e VR1, se invece ti vuoi regolare tu con la portante tremuta è il VR8. Già confermo, già è vero, perché adesso mi sono accorto, è scritto MFM e lo Smith, sì, esatto, VR1, che rimane attaccato al frame della SSB, esattamente. Invece l'altro è per la portata in trasmissione, già è vero, adesso ho guardato bene. Il VR8, quello si regola lo Smith a segnale di 9, è a posto, poi l'altro invece è per la ricezione. E poi mi avevi ragione, allora mi lamentavo me, VR1, e mi sembrava un po' strano VR8, infatti. Va bene, dai, comunque, sempre un trimmer, fra VR1 e tutto quello. Ciao G, buonasera, avanti. Buonasera a tutti, dai, sono un po' impegnato in cucina, sto preparando un menù mio per particolare, capito? E acceso e ho sentito che... Sono sbagliato, allora sono entrato per correggere che era il VR1, dai. Tutto qua. Riprendete, dai. Che c'ho i fornelli accesi, capito? Va bene, ok, avanti, vai a prendere ciò che vuoi. Avanti, sì, perché te fa? Sono tutti più o meno uguali, capito? Poi c'è il VR13 che è quello più regolare, esatto, capito? Poi c'è anche il 14, la modulazione, il 16 un po' la radio, magari bisogna aumentarlo leggermente il watt con la radio, capito? Per aprirlo un po' di modulazione. Il trimmer che regola lo smitter è uguale a quello che regola il watt, che attacchi la radio con un watt mentre che te la regoli magari a 7-8 watt, capito? Qui già sale qualcosina in più, qualcosina in più già sale. Avanti, Antonello lo riprende. Si possono fare tanti lavorettini per aumentare un po' la modulazione, hai capito? No, non è scarsa, è radio normale, ma si potrebbe fare di meglio. Sono qua, è arrivato capo di Bugnetta che l'ho chiamato e non ha ripreso, avanti come Bugnetta. Ehi, sono andato e mi ha chiamato Anna. Vabbè, comunque quello lì va regolato sotto antenna, così come lo vuoi regolare tu non va bene, capito? Perché i segnali variano. Io con quello di Massimiliano, con quello mio, e si fa la taratura giusta, capito? Anche perché io non lo conosco col baracchino, ma lo conosco più Massimiliano. Vediamo, vai, lo do a Massimiliano e te lo fai regolare, capito? Che lui sa dove mettere le mani. Avevo 5 minuti a farlo proprio, capito? 5 minuti, ci vuole più a tu mi invito da tonale che a farlo. Sì, è un po' vergognoso perché se mi ha dato 3 a picchi di qua e di 4-5 è vergognoso, perché tu passi 9 e 15 scarso, minimo ti dovrei arrivare 9.20 io lì, minimo, e invece mi avete arrivo 5, quindi è un po' troppo basso, mi sembra. Ma un po' più di 3 la cosa che dite, vado a fare arrivi quasi a 7. Ho capito, grazie, anche avevo 3 a socio arrivo. Senti, ho 3 a socio, ma se quello lì lui lo usa anche a casa, io gli arrivo, quanto ti arrivo a casa tua, Fra? No, l'ultima volta che ho preso la mia. Anche 7 in via di Sicilia. No, va, va, va, va, non è regolato, lo smetti di regolare. Lo stavo dicendo, Claudio, che si potrebbe anche migliorare di parecchio la modulazione, capito? Su quella radio. Ma infatti mi sono permesso di dirlo a te, perché tu di quella radio sei pratico, io non so veramente le mani, conosci prima la memoria, quindi basta che Franco ci vediamo un attimino e si fa. Ma te la fa lasciare lì a casa tua, le togliamo le viti, 10 minuti, quando ci vediamo gliela facciamo. Ma infatti, ne hai altre tu fra da usare? Ci mettiamo d'accordo, passi a casa, rilassi un attimino, tanto Massimiliano passa spesso qua, capito? Anche rientrando al lavoro un attimino, glielo apro e lo attacco sotto la mia antenna, così te lo regolo e te lo riprendi a posto, se no è un casino. Santiago 3, Assuscio, ce l'hai davanti a Massimiliano, alle 9.15 a lui, tu, nella macchina, figurati. Infatti ci vuole per uno che lo sappia mettere le mani, lui conosce prima la memoria, quindi ci mette poco a fartelo, capite? Non per dire telefono a Marco, a Natalino, non so, faccio riferimento al mio e si tarà uguale al mio. Io arrivo dove posso arrivare, quelle per la ricezione devi mettere la radio sotto la strumentazione, come si vede, no, così a orecchio, non si può dire oggi, ma oggi si, capito, non oggi si, mi chiama compreso. Vabbè, il senso è quello, là. Due trimmerini si possono girare, ma poi sulle ricezioni e balle varie la radio viene attaccata alla strumentazione giusta. Sì, fra, la radio si trattene tu, è sorda come radio, boh, quello lo puoi vedere tu, come se ascolti bene non è sorda. No? Ascolta, ma cosa c'è? Il filtro è inserito anche per caso? E magari poi se entra con Polio fai la prova e lo togli, capito? Perché quello un po' ti chiude i rumori, i fermi e roba del genere. Positivo dai, ok, riprendi Claudio, chi era la voce? Oh, cosa stanno facendo con le camere? E chi? E cosa ne so, quando devi fare bene due erano i... aspettami l'alloggio, capito? No, ma era l'aria di tu, vai, c'è macchina tutta sporca dai piccioni, ed ha fatto ui. Gliela prende, gliela lava e gliela riporta pulita. Massimiliano Pallucco. Massimiliano. Sì, Nattalino sta facendo il microfono, Nattalino. Quattro figli sono. Non so se sta facendo il microfono. Massimiliano. Ehi, Acla. No, mi sono spostato un secondino, mi trovavo la cosettina. Voglio che mi ascolti adesso, Fra. Forse mi sono avvicinato a questo microfono che un maledetto che fa la 68, spingi un bel microfono, l'ho preso, quindi non devo allontanare, là. Sono tipo a 50 cm da microfono. Così va bene Massimiliano, come l'abbiamo regolata va bene. No, pensavo che avesse fatto qualche difetto, ti ho chiamato e non mi hai risposto. Ciao Lu. E va, vi lascio in buona compagnia che io non come una sigaretta, va là, quello che già Raffanelli. Lui ripeti tu Luca, compagnia di Franco e Claudio. Dai, ho poco tempo, 20 minuti, 4 d'ora. No, 20 minuti, 25, dai. Ciao Franco, ciao Claudio, ciao Massimo. Ciao a Natalino, quel buon cuore, che non c'è, avanti il Claudio. Ciao Luca, ma c'è la casa? Chi siamo lo basso basso, non ho capito chi è Cla. Ciao Lugorie, buonasera, ben ascoltato. Chi è quello basso? Non riesco a capire quello che dice. È Franco, Franco. Franco di Tattari che sta modulando in macchina da sorso al lavoro. Non so se mi ascolta lui, ma qua arriva basso basso. Il bip si sente discretamente, ma la radio è molto bassa. Luca, io ti ascolto, però francamente anch'io non ti sento molto bene. Lo sai chi è lui? Sentivo parlare basso, non ho capito quello che ha detto. Ma lo sai chi è? No. Il marito di Ombra, di Anna. Chi è? Ma non ci hai mai parlato con Anna, va. Metteva lì punti prima, abita via di Sicilia. Vabbè, se non lo conosci, comunque lui è Franco. Avanti, Massimiliano. Fuori Massimiliano, forse magari io stavo appena entrando in quegli anni, ma magari lei c'era prima di me, io tra la cosiddetta sono una ventina, ho iniziato a modulare dal 94, 95, Cosa hai detto tu? Ho detto che ho iniziato a modulare dal 94, 95 io, non so se lei stava già modulando, non me la ricordo questa ombra. Comunque già lei ti conosce, già modulato con te. Da di punti parlavano prima, parlavano, capito? Da me un po' di tempo fa, era collega di mia moglie, lavoravano assieme. Anche Franco modulava, anche tu modulavi Fra, no? Sì, Giampagna, quando mi chiamo Giampagna, dicevo, lavato l'auto, perché non vedo la lavora con l'opera, mio amico Santorizio e Paola. Con l'antenna ci sono attaccati, ero bravamente. E già mi ricordo di modulati, no, con Anna ci parlavo spesso, no, anni fa, ma via di rialzati. Sicuramente. Va bene, va bene. Sì, e basta, mamma mia, che ogni volta che voci mi in ghiribiri, che aspetta, dopo ti porto, gira, mi richiama Gigi. Oh, c'era anche Natalino, è sparito, non so se sta facendo il microfono, se sta facendo altro, Natalino. Ehi, hai fatto lo stomaco, lo sto togliendo. C'è bene fratelli. Ciao Fra. Ciao Fra. Allora Carotti, ci siamo? Ehi, ciao Matto Giù. Eia. Ma lo sai che non lo sapevo. Stavo guardando il come si chiama in Oramara quello dei programmi eccetera, e ho visto lo spot mentre turnover con l'Atalanta, ho detto ma noi giochiamo già a Juventus, ho messo il televideo, e c'è la Juve stasera, Atalanta Juventus, meno male. vedi che mi stai tutto morseccando, va avanti qua a pugni a capo, vai chiamalo, vai la mamma, vai, sì sì, ce la guardiamo, vai, vediamo bene perché ci abbiamo sta Roma attaccata ai piedi, quindi dobbiamo andarci veramente a 11, perché c'è il derby, capito, domani c'è il derby, domani c'è il derby a mezzogiorno e mezza, quindi, sai, Roma Lazio, Lazio forte, perciò si perde la Roma è finito il campionato. Ehi, a fra. Ok, fra. Sì, vabbè, certo, qua. Bisogna vincere. La formazione è quella che ha battuto, cioè che ha eliminato il Barcellona, la stessa formazione, per cui dovrebbe andare bene, speriamo bene. Ehi, ma Bergamo è sempre triste, capite? A Bergamo è sempre triste, siccome la Juve ha puntato a tutto quest'anno, sia la Champions, Coppa Italia e campionato, perché il campionato oramai è bello bello, non siamo imbattibili, però se ce ne andiamo a più 11 è meglio della Roma, perché è attaccata anche io, capito, anche un po' fortunata giocando, quindi sai, noi siamo a Bergamo fuori casa, loro sono in casa con la Lazio, anche se è un derby, però bisogna fare attenti perché se andiamo a più 11, mancano 4 partite, la Juve ha vinto il campionato, non è che 5 ne mancano, mi pare, 5 o 4, quando me la metto, comunque è finito, non la prendi più. Se vince oggi la Juve si può dire che è fatto, almeno al 99% è fatto, per cui va bene così. Vabbè, c'è anche un po' di Juventus anche nell'Atalanta, Spinazzola e Caldara sono della Juve, per cui anche se a quanto sembra gli lascia per alla 2018, però sono giocatori della Juve, quindi sono i migliori che ci sono nell'Atalanta. Vabbè, speriamo bene. Mamma mia, c'è Caldara, l'ho visto giocando giù e poche fosse io, mamma mia, speriamo non ci faccia il gol proprio lui. A Bergamo è una partita difficile, la Juve è fortissima, perché la Juve quest'anno non c'è per nessuno, però caspita, Atalanta in casa fa numeri, a Bergamo è micidiale, vabbè, speriamo bene. Allora, mezza ce la guardiamo, dove si vedrà. Avanti, Lucarie. Ascolta, cioè, ciao Luca, se mi ascolti. Vabbè, comunque, le ultime 24 partite che ho fatto con l'Atalanta ha sempre vinto la Juventus. Le ultime 24 partite. Adesso farò ogni partita farà soli a sé, per cui non vuol dire niente a quello. Però bene, è in forma, l'Atalanta è molto in forma, però noi siamo la Juve, e il discorso è quello qua. Tutto è possibile comunque, Lui la passa a pena. Troppo alto. Ciao Luca, buonasera, me l'ha ascoltato. Ciao, ma ci vediamo. Sei così bella va? Così ha migliorato tantissimo. Ok, forse ero troppo vicino, vabbè. Andare, poi cosa dire, qua. Ripeto, sono due squadre in grandissima forma, speriamo bene, se la Juve è in salute dovrebbe vincere, dovrebbe, poi naturalmente il pallone so che è rotondo, anche se bisogna saperlo giocare, ma l'Atalanta è una di quelle squadre che lo sa giocare abbastanza. Vai qua. Ok, ciao Fra, ben ascoltato, sì, va bene così. E beh, Massimilia, cosa mi racconti? Ciao Giulio. Ciao Luca, Luca, che ce l'ho prima, allora, mi sono assentato un attimino, che era al telefono. Qua sono, qua, mi sono ancora 20 minuti circa, poi vado a cenare. Ok. Vabbè, ci siamo, sono le 8:20 quasi, per cui tra una ventina di minuti anch'io riceverò la chiamata dal piano di sotto per scendere in tavernetta a cenare, sicuramente così, come tutti i giorni insomma, ecco. Va bene, vai Franco. Thank you. dipende da come è parcheggiata la macchina, perché avendo l'antenna dietro nel cofano, sicuramente va da, la macchina ti mangia un sacco di segnali, sia in trasmissione che in ricezione, perché si sa, in macchina l'antenna vorrebbe al centro, però è un peccato bucare la macchina per trasmettere appunto col baracchino. Va bene lo stesso, è interessante sentirsi pure, sia forte o basso, interessante capirsi tutto lì. Massimilia. Non c'è radio, la radio aumenta. Io Giulio. Ma chi è quello che è entrato la voce bassa bassa? Massimiliano, ma tu sì? Oh, Bacchisio, ciao Bacchisio, avanti. Ok, buonasera a tutti, belli e brutti. Bacchisio a questa parte, buonasera, signor Giulio, dopo due secoli ti sento. Bacchisio, io sono sempre in questo canale, e se tu vadi, non ti busco a nulla, entra qua e ci sentiamo sicuramente tutte le sere. Non ci sono dubbi, avanti qua. Ma infatti non è colpa di Giulio, tu ti sento che parli dall'altra parte, quindi Giulio è sempre qua, canale 10, ciao Bacchisio, buonasera. Buonasera Claudio, no, su 10 non ci ho mai passato, no. Dice musica qualche volta ascoltavo, ma non a Giulio l'ho mai sentito. Ok, bene, io sono andato solo a salutarvi perché stavo impazzicando qua su. Ho sentito Giulio, e poi ho sentito Giulio un secolo non sentito. Bene, chiedo scusa se ho disturbato, perché se vi saluto, vi auguro ancora buon pensiero a tutti e ci sentiamo alla prossimina. Vi ascolto volentieri, finisco i miei lavoretti. Riprendi Claudio. Non c'è problema, non ci disturba nessuno, caro Bacchisio, quando vuoi. Noi siamo sempre qua, vai io Giulio per i saluti. Ok, ciao Bacchisio, figurati che tu disturbi, ma vuoi scherzare? Dai, non pensare nemmeno lontanamente a questo discorso. Noi siamo sempre qua e il canale è aperto a tutti, chi vuole entrare, noi siamo sempre disponibili a chiacchierare in maniera civile e soprattutto educata, per cui no, non ci sono problemi Bacchisio, pure con te, figurati, ci conosciamo una vita, Bacchisio, se non vado d'accordo con te, almeno io, vuol dire che non vado d'accordo con nessuno, mi Bacchisio, riprendi ancora e poi chiudi, vai. Sì, hai ragione, è una vita proprio che ci conosciamo. Ok, no, ma io lo dicevo sempre, Giulio, ma vedete che fine ha fatto. Ecco, adesso stavo girando, rigirando, così, ho sentito chiamare Giulio, ho detto no, è lui, e Giulio lo aveva bucato. Andiamo a salutare. Bene, ancora vi saluto e ci sentiamo. Riprendi Giulio, alla prossimina, dai, adesso so che sei qua, poi ci sentiamo ancora. Ok, io ho Bacchisio, mi fa piacere di ascoltarti tutte le volte, ci mancherebbe. E anche perché in PMR non potevo sentirvi perché non ce l'avevo più. Adesso ieri me lo sono, anzi anche ieri me lo sono ordinato di nuovo, quello che avevo prima, perché costa la metà, per cui ho pensato di ricomprarmelo. Pazienza, me ne volevo comprare uno un pochino migliore, più serio, tipo quello che si può alimentare direttamente dall'alimentatore, ma mica è considerato che quello che avevo prima costava 70 euro, adesso ne costa 39, e allora mi sono coordinato quello, penso che può essere che mi arriva domani, o massimo lunedì o martedì, no, lunedì no perché è festa, per cui tra un po' eventualmente possiamo sentire, cioè posso spaziare anche in PMR per vedere se ti sento. Ok Bacchi, alle prossime, dai. Se senti a Marino in PMR, salutamolo da parte mia, non l'ho più sentito, dai. L'ultima volta ci siamo sentiti al telefono, ma niente di più. Ok, avanti Franco per il Bacchisio. Sì, saluto Bacchisio, Marino l'ho sentito l'altro giorno. Sì, beh, Marino esce bene sia in BMR che in 27, indubbiamente, perlomeno qui da me siamo a un tiro di schioppo, per cui non ci sono problemi. Sì, solo che io non lo potevo più sentire perché il PMR l'avevo dato, mi si era attaccato un amico, è da Milo e gliel'ho dato, e l'avevo venduto per pochi soldi, però come cosa problema. Adesso spaziando così e vedendo sul PC che cosa si trovava, ho visto che quello che costava prima 70 euro adesso costa 39 euro. E allora per 39 euro me lo ricompro, anche perché mi era rimasta la batteria con la rinforzata e il microfono portato, cioè manuale. Per cui tanto vale, fa 39 euro, 40 euro in tutto praticamente, me lo sono riordinato, capito? Lo sto aspettando. Fra qualche giorno sarà qua. Ok, vai qua. Papà, rinnovo saluti a Bacchigi, allora, Bacchì, quando vuoi. Io ho già fatto l'Uta, quindi ci conosciamo. Quando vuoi te la salutarci siamo sempre qua. Ho detto giù, ma è della Vux o no quello cinese? È Baofeng, è sempre Baofeng, quello come quello che avevo prima, quello con quello fiancate giallo, diciamo. Ce l'hanno tutti, ce l'hanno un po' quello. E va bene, andava benissimo, poi io da dentro a casa col suo antennino, già lo sai, mi sentivi tranquillamente, non c'era bisogno nemmeno di utilizzare l'antenna esterna, per cui da dove sono io, in questa posizione, mi sentivano tutti e sentivo tutti. Per cui pensa che avevo sentito addirittura l'amico Sandro dalla Corsica, mezzo io sono, per cui meglio di così, che cosa c'è da pretendere? No, lo volevo comprare per non stare sempre a caricare la batteria, ma lo volevo comprare come quello che ha un amico che lo usa direttamente attaccato all'alimentatore. Però caspita, ho telefonato vicino a 117, mentre invece quello prima costava, mi sembra, 85-90, allora mi costava 117, ma lo lascia perdere. E allora ho optato per questo che costa la metà di quanto avevo pagato prima qua. Ascolta Giulio. Dimmi, ma chi? Ah, c'è quello, diciamo così, da attaccare all'alimentatore. 72 euro, con trasporto ti viene 75. Ma chi? Io ho telefonato, mi hanno chiesto 117 euro, l'890, 117 me ne hanno mandato. Ah, quello cinese, diciamo così, che ha tre bande. E come il Baofeng ci arrivi, faceva V e più AM. E così è questo qui, lo stesso. Dove si trova adesso non mi ricordo in quale zona si trova. La spedizione avviene dall'Inghilterra. Infatti io l'ho ordinato, mi dovevo arrivare intorno al giorno 9. Boh, ma chi, non so cosa dire, perché io ho telefonato a una ditta in Italia e mi ha chiesto 117 euro, ho fatto, oh, ma 117 euro non li spendo per un PMR, manco, ma sogno, tanto più che mi andava bene anche quello, era solo per non stare sempre caricando la batteria ma chi, però io ho la batteria rinforzata che l'abbia pagata 20 euro, mi pare 22 euro solo la batteria, ti puoi immaginare, io avevo pagato altri 9 euro, mi sembra, il microfonino, per cui, e allora ho fatto, ma mi sei considerato che mi sono rimaste queste due cose, perché quelle non le avevo date quando l'avevo venduto quello là. E allora diciamo, lo riordino e tanto butta la metà e rispetto a prima e mi va bene lo stesso, tanto per il discorso che si può fare in PMR mi va bene lo stesso quello. No, se non ricordo in quale sito era, quello lì dove l'ho ordinato io, non mi viene in memoria adesso. L'ho ordinato, infatti il giorno 9 dovrebbe arrivare, 30 euro di spedizione dall'Inghilterra, 75 euro, 77 euro mi viene. Ma a contare 77 euro, un coso cinese, quando io ho pagato il Voxon, il vuoto della Voxon, che è completamente un altro pianeta, perché è un portatile professionale, e l'ho pagato 80, neanche 90 euro, della Voxon però, capito? No, cinese. Ma cosa ce l'ho anch'io, quello lì, Claudio? Ce l'ho attaccato, quello lì. E l'avevo pagato 100 euro in Italia. Me l'aveva scritto mio cugino da Cuneo. Sì, perché conta molto di più, ma chi, capito? Il Voxon, il vuoto, il V2, quella serie lì che fanno anche da transponder, fanno vabbè a livello amatoriale, quindi anche sprecato in PMR, costa 120 euro, però io l'avevo pagato 90, capito? Come fa i cinesi a farsi pagare 75 euro un gioco? Giulio, ce l'avevo sotto mano io un vuoto, capito? 70 euro, un vuoto, col microfonino e tutto, dentro la scatola, nuovo nuovo, ci hanno già venduto un radioamatore, nuovo, nuovo, nuovo, mai usato. Pazienza, ormai, non lo sapevo, se non ti avevi chiamato, ma purtroppo non lo sapevo. Ma io diciamo che mi ha invogliato il fatto che prima lo stesso che io ho ordinato costava 70 euro di un bagaglio, che adesso 39 euro, ma no, sono in offerta queste cose qua, questo se ne vuole disfare e vendersi gli ultimi che gli sono rimasti. Ha preso il telefonato e ha fatto domanda subito, dice, immediatamente, dice, un paio di giorni dice c'era a casa, e vabbè, quasi ne arriva domani, domani è sabato, è ancora la giornata lavorativa. Forse che ne arrivi domani, non lo so, speriamo. Comunque, non c'è fretta, poi può andare bene anche alla prossima settimana, problema non me ne so, ci mancherebbe, figurati. Facciamo girare a Franco, avanti Franco, scusa il dialogo lungo che ho fatto, vai Franco. No, ma diciamo che tutti si equivalgono più o meno, o fra, all'incirca sono così. No, io ho preso il Baofeng, tu guarda, è il GPT3, per cui ce l'ho avuto già, ce l'avevo, ma poi l'ho dato, sarà un mese e mezzo fa, una cosa del genere. Dunque sono rimasto appiedato, e allora adesso visto e considerato che c'era la convenienza, costa la metà di come la prima, e allora l'ho riordinato, tanto più almeno sotto anche la batteria, che aveva pagato 22 euro solo la batteria da 3800 mAh, la sua originale è 1800 mAh, è così, vabbè, avanti. Chi c'era rimasto? Ma chi c'è ancora? Ci sei? Ci sto ascoltando giù, ci sto ascoltando e sto facendo memoria per dirti il sito dove ho preso quella roba lì. Ok, ma casomai eventualmente i dati se riesci ad averli, poi me li fai sapere un secondo tempo, che magari può essere che mi ordino anche quello, che lo sa, però per il momento diciamo ormai ho ordinato questo e certamente non disdico l'ordine, tanto più che me l'avrei già mandato, gli ha spedito quello sicuramente, non fa niente, non è un problema, avanti di qua. Sì, ma avevi accennato che l'avevi dato un tuo amico, però non sapevo che lo stavi cercando di nuovo, capito? Se no te l'avrei preso immediatamente, quella era un'occasione. Quello, il modello che costa 120 euro lo sta vendendo a 70 euro, ma bellissimo, ecco, il microfonino su originale, l'attacco dell'alimentazione, l'attacco del caricabatterie, bello, è come quello che c'ho io. Ed è professionale, perché la Voxion, quindi sono professionale, c'ha doppio display, fa VV, insomma, puoi ascoltare tutto quello che ti piace ascoltare, anche spreccato, ripeto, in PMS. Però va bene, il prezzo è abbordabile, capito, perché nuovo costa 120 euro, la vendendo a 70, la vendita ricatto, era tutto completo, quindi per prendere uno di quelli cinesi ci avevi uno più professionale, capite? 5 watt d'uscita. Vabbè, non sapevo niente, se non te l'avrei preso direttamente e non l'avrei fatto lasciare. Ma si era venduto. Vabbè, dunque, te l'hai ordinato, già va bene, dai. No, io ascolto col veicolare, con le radio sono amatoriali, quando devo ascoltare, entrare non entro, ma ascolto. Quindi portatile ce l'ho, ma lo uso pochissimo. C'è qualche manifestazione, così me lo porto, se no niente. Va bene, avanti fra. Ce li hanno tutti quegli amici, ce li hanno, diciamo che penso perlomeno che ce l'abbia ancora, sicuramente così. C'è la Macchito, c'è la Marino anche, ce l'hanno tutti, ce l'hanno Gio Maria, c'è la Graziano, perlomeno ce l'avevano, penso che ce l'abbia ancora. Vabbè, comunque stiamo andando, dai, non è un problema, adesso è andata così e non ci sono problemi. No, a dire la verità, non mi ricordavo pure qua, che dopo là dietro c'era Stefano, me l'aveva proposto uno, ma ormai ce l'avevo, e allora no, non mi serve perché ce l'ho. E invece poi mi è chiuso la tenda alla mente e non mi ricordavo che Stefano ne aveva uno a disposizione, che lui non usa o qua. Sì, infatti. No, ma ti ripeto, io mi avevi accennato che l'avevi dato a un tuo amico, a un tuo parente, eccetera. Se lo sapevo, se sapevo che ti serviva di nuovo, te l'avrei preso quello, perché è uguale al mio ed è veramente eccezionale. Poi la Vox è una micidiale, non fa cose, quello è molto professionale, va benissimo. Ok, tu c'hai fra il Polmar, così hai detto. No, diciamo che ne guardo tante, ne ho guardato tante, però adesso la sigla, sì, poi la sigla, manca già la ricordo, però la sigla non so se è quella che ho visto, perché ce ne sono diversi, dunque non ho, io ripeto, avevo Baofeng e Baofeng, devo dire che mi soddisfava perché sentivo dappertutto, ho sentito la Castelsardo, ho sentito la roba che non sto dicendo, l'ho sentito addirittura dalla Corsica con Sandro, da Sentino, da Porto Torres, arriva bomba qua, per cui diciamo che mi ha vogliato di nuovo a ricomprarlo un po' per il prezzo e soprattutto perché sapevo che aveva una buona modulazione e soprattutto una buona trasmissione, per cui c'è cioè una buona ricezione, per cui ho optato per quello, dal momento che costa la metà e solo per quello mi ha vogliato più di tutti, per il fatto che costava la metà di come era prima. Un attimo. Vai. Allora Giulio, il nostro gruppo su in vai. L'898S ed è l'Eliken, capito? L'898S. 898F, e io avevo chiesto a quel 917, mi ha chiesto, beh, l'890 0D mi sembra, una cosa del genere, se evidentemente sono più o meno quelli. Sì, ho capito, sì, ho capito. E io, vabbè, comunque. No, perché avevo chiesto all'amico nostro stesso, lì della zona, che lui ce l'ha con l'alimentatore e mi interessava quello, proprio per evitare di stare sempre caricando la batteria, però mi si è considerato che mi ha parlato una cifra per me assurda nel senso che per me era una presa in giro di un pugaro, allora ho optato di nuovo per quello che avevo prima, tutto io, ma che niente di più, riprende e fai girare tu, vai. Faccia vedere sui buyer, guarda quello lì, ed è un giocattolino, 120 per 85 per 40, è un giocattolo, l'alimentazione 12 volt, sono già il caricabatterie, secondo l'alimentatore, alimentato dalla rete. Bene, io devo lasciare perché devo andare a prendere le medicine, sono le 8, mi ha suonato le 8, dunque devo fare merenda di medicine. Chiedo ancora scusa e ci ho disturbato ancora. Ma chi vi saluta cordialmente, augurandovi ancora buon questo. Magari domani se ci siete chiacchieriamo ancora. Bye bye. Ok, ciao Bacchi, figurati, non dire nemmeno scherzando che disturbi, ci mancherebbe altro, ma vuoi scherzare, alla grande sempre, grandi amici, ci mancherebbe, peccato che adesso di persona non ci vediamo più come prima ma dipende da me perché io ormai non sono più in bottega, per cui raramente mi puoi trovare solo di mattina, ma tu di mattina so che sei impegnato nelle tue cose, per cui insomma diventa un pochino più difficile, ma ad ogni modo la vita ancora continua, per cui c'è sempre tempo, Bacchi, alla grande. Ciao Bacchi, grazie per la chiacchierata e anche per l'informazione, salutone a te e ti faccio salutare dagli amici. Avanti Franco, poi Bacchi si chiude. Ciao Bacchi. Ciao, ciao Bacchi, piacere averti ascoltato, siamo sempre qua, ti ripeto, non disturbi nel modo più assoluto, anzi ci fa piacere se ogni tanto passi a salutarci. Ciao, buona serata, buon tutto, alle prossime. Massimiliano, c'è ancora, Massimiliano. Ma io Massimiliano l'avevo richiamato, ma non l'avevo ripreso, evidentemente si era staccato. Vabbè, dai, anche io ve devo lasciare, sono a quel punto, per cui il primo squillo me l'ha già fatto mia moglie, per la cena, dai. Ok, alle prossime. Vi ringrazio a tutti per il QSO, per il piccolo QSO, ci sentiamo alle prossime, anche perché adesso tra una cosa e l'altra ci fa l'ora della partita qua, per cui voglio essere presente alle 9:15, e che Dio ce la mandi buona. Ciao Claudio, grazie per la chiacchierata, ciao Franco, ciao Bacchisio, saluto a tutti, ciao Massimiliano se c'è l'ascolto, Luca se c'è l'ascolto e quanti ce ne saranno all'ascolto. Saluto a tutti, per me quasi qui, ascolto fino a lì o poi chiudo, vai Franco. Sto ascoltando, adesso chiudo e vado a cenare, ciao a tutti, alla prossima, buona cena quando l'ha fatta, ciao. Io ero qua, l'ascolto, mi avete rilanciato ma non potevo riprendere, dai. Riprendo adesso, ciao Giulio, ciao Luca, buona continuazione di serata per tutti, avanti capo di Bugnè. Va bene, va bene, vai a mangiare, vai a rostire, tanto. Domani è sabato, ti farei 3 di invece, ah, sabato, domenica, lunedì, invece io lavoro domani, domenica mi fate riposare, chissà per cosa, tutto organizzato, e lunedì ci vi travagliare, compreso, quindi, vanno tornando a putti, dice ti mettiamo a riposo domenica, ma lavori lunedì, compreso, vanno giù. Già lo so, qua, tu c'hai la sangue, perché i festivi per te sono giorni lavorativi quasi sempre, per cui comunque è interessante stare sempre in buona salute, pure il lavoro non si rifiuta mai. Ok, vi saluto di nuovo, ciao Claudio, Luca, Massimiliano che sei rientrato, ti saluto, Franco e Bacchisio, saluto a tutti quasi per me. Ok, ok, avanti Luca. Luca con te di computer, ciao Giù, grazie alle due chiacchiere, dai, porta Juve, ci sentiamo. Fatti sentire però, che sia un po' assente, non fai la sentista. Avanti Fra. Ciao ancora, ciao. Mi sa che tu stia salutando tutti. Mi sto preoccupando per la partita della macchina, perché me lo sono fatto la mano, sto giocando vino. Io sto facendo una foto, scusate un attimo. Te la voto io, e la picco in tutte le vie di Sassari, ma non è Calogio, ma non ti voto. Comandante, lo avessi 15. Ah, dimmi tu questo. Ogni volta me ne fai venire l'Alzheimer. Non ce la so. Che tu non ti nascondevo, voglio. Allora, chissà quanti volte ha piccato in Kivi, perché sono microfono di quella che sa cuffietta. Ascoltava il gruppo. Vabbè, comunque la proposta potrebbe essere buona, quella che ti ho detto, capito, qua. Mi sa che mi metto a fare. E intanto te la piglia in gomma di Bossa Maccio, questo è il primo. E come, quando scendiamo, come i cavalli che scendiamo, che si libono. Che sciughe. Uia. Dai, sta sereno, la glielo procuriamo. Ehi, fuscioli ci vanno, che... Ah, ci picchiano. Ho fatto a cosa, a Vale, io. Capito, ho fatto a Valerio, sennò... l'avresti preso subito l'MD1 B8 bello come il 60 però non spinge capito, se no avremmo cambiato le connessioni e avresti preso quello. Comunque Massimiliano, non puoi dire che stai uscendo male perché ti ho mandato la registrazione a prescindere da questa parte di scherzi. Il fatto che non ti piace è una cosa che anche a me quando una cosa non piace, non piace. Però non mi dire che stai uscendo male perché la radio è bellissima. Sì, ma non mi fa pensare la cosa, che non mi posso comprare che non so con la lavatore. Sapete con un muro, farò piacere. Anche io, non ti puoi comprare un MC60 e attaccarlo allo President o all'Uranus o al coso, come si chiama, all'8001, magari l'ha detto. Ce l'avevo io l'M60 col presidente, il povero Giampaolo Silvestro l'aveva fatto anche il cavettino, era la fine del mondo. Questa modulazione la senti? Uguale usciva col presidente. Sì, sì, ho sentito. Vabbè, qualche duro. Ho sentito che c'è una musica, non si può comprare un MC60 che non è l'animatore. Vabbè, va. E quindi io, scusa questo ping pong, fra. Mi sono anche un po' allontanato, capito? Però la radio deve essere bene, già lo so, questo sono sicuro al 100%. Ma voi la sto vendendo? No, dico la radio, la modulazione. Ah, e vabbè, già si può fare anche con la tua così, capito? Già si può fare anche con la tua, comunque tu, non lo so, se ti interessa questa qui è vendita. Ti buco i gommi. No, va bene, già vanno bene questi baracchetti così, eh. No, ma tu quando li accuffi bene un bel microfonino, se un 68 va bene, capito? Sono della Midland, picco, c'ha 120 canali, va bene, ci ha copiato una farina dentro e esce benissimo. Massimiliano, è quella la messa a posto, revisionata, uno che non capisce niente, che quello che legge non sa manco quello che legge, ricorda proprio. Sì, sì, infatti, ma guarda anche lo sguardo Claudio, questa dentro, ho visto, c'è un bel lavoro, poi lui ha tutto pulito, tutte le cosettine con la trielina, capito? Ha fatto un bel lavoretto anche Claudio, va. La radio era già in ordine, più o meno. Claudio l'ha tutta pulita e si è appentato un pochino, ma quando si mette già un capo di lunetta, no? Mi sa che radio non funzionava la ventola, andava in protezione e c'era la resistenza del bottino bruciata. Attento, a parte tutta la pulizia che gli ho fatto. Cos'è, non parli? Mi devi dare 16 euro a ora, ho lavorato 6 ore in quella radio. Sarai accontentato, domenica mattina un caffè, capito? E senza neanche lo zucchero, solo lo consumo. Tu a me mi puoi fidare un caffè e la birra, macchina Marreghi Dunno. Va bene, sarà fatto. 16 euro a ora, avanti. Non è che lo sconto più un amico, no? Leggi il messaggio, capito? Perché domani mattina lavori? E allora, domani c'è l'inaugurazione di un pezzo di strada, un 8-3, e ci devono vedere tutti lavorando, mica animali. Sì, vabbè, Massimo, domani è anche bella giornata, eh. Ha fatto più di 20 gradi domani, quindi, e anche domani mattina, infatti vedi che è il vento, abbattiato, bello. Sì, vabbè, anche la mattina lavoro, poi riposo domenica, lunedì mi porto un giretto di controllo, a mezz'ora me ne rientro, così almeno una frutti, tanto una giornata come gli altri, un lunedì festivo, ma per me non me la frutti nulla. Vai, tranquillo. Ma ritorni solo di mattina o anche di sera lavori? No, lavoro di mezza mattinata. Sì, però mezza mattinata mia, già. Usare dalle 4 e mezzo di mangiare un mini peso e rientro alle 2, quindi alla fine ha giocato la zurrata. Ma se vi oggi mi hanno crepato anche a me. Sono uscito alle 6:10 senza mangiare, senza niente, sono rientrato alle 4 e mezzo, alle 5. 5 meno un quarto, fa 4 e mezzo. E ho mangiato infatti a quell'ora. Avevo fatto il riso con i carciofi e c'era i vari a casa e me l'ho mangiato freddo così, doppio e basta. Un tanto vedeva e basta, capito? Stavo rientrando all'una, invece mi ha chiamato l'ingegnere, mi ha detto che per rientrare a Varese che c'era la squadra in manutenzione che dovevano piazzare una linea in polietilene. Sono sentiti, ho visto che stavano tardando, gli ho dato anche una mano a posizionare i tubi, a fare, a piazzare, mi fate male, vista che è china. Ah, no, ma sono rientrato a Rizzico. Oh, vabbè, ancora un annetto, forse sia poco. Volevo chiedere, Fra, ma tu le FM ce l'hai lì in radio? Qua? Ah, Franco. Sì. Proviamo a fare un passaggio che se mi ascolti meglio le FM, e mi guarda anche il segnale. Sì, si stringe molto qua. Si stringe proprio molto, molto, molto, molto. Aspetta che ne vo. Ecco qua, per mettere in... in posizione da combattimento. Sì, sì. No, ma è bella anche in FM la tua. Gatta, gatta. No, no, già va bene, ma... si vede un pochino, mi già esce bene che mi stavo ascoltando in cuffia. Là. Ma ci vedeva? A prescindere. Bella modulazione. Quello 85 sta funzionando bene, bene, bene, bene, capito? Bene. Perché anche quello... insomma, era un pochino così e abbiamo fatto il tutto per farlo andare come Dio comanda ed è anche nuovo, perciò un po' di pazienza e già si trova un sessantino, dai. Aspetta che sono al telefono un secondo e via. Chi? Massimiliano è più vicino a te. Non lo so, però un bel più forte arrivi, eri 9, da 5 a 9 si è passato. Ho detto io, non parecchio. Sì, 9 mi arrivava in FM, qua invece in M mi arrivi 5. Quindi anche questo in FM parli. In FM è frequenza modulata, quindi è fatto proprio a posto, capito? Magari è qualcuno della forestale, capite? Ma in divisa sì, no? No, no, una volta metto la vetrina per andare in divisa. Ah, cosa c'ha scritte? No, questa no. Vabbè, aspetta che abbasso le sue tv accese, ogni tanto riaccendo per farle scaldare quello base e quindi ho visto che c'è gente che stava parlando, ho abbassato. Va bene, no, in FM proprio sei perfetto, ma anche così ti rendo conto che sì, ho capito che sì, proprio sotto di alla, a Sorso, la mia posizione per lì sicuramente è poco favorevole, però stai arrivando benissimo. Santiago 5 modulato 6, la radio perfetta 5, senza nessun problema. No, ti ricordo che erano radio di 30 anni, cosa che ripeto. Però va bene. Alla grande. Ho ripreso, Oh, telefonato, hai? Sì, mi ha chiamato, nel frattempo che stavi parlando. Capito, non ho fatto da parlare. Andà bene. Questo tipo che stavi parlando? Sì, stavo parlando con questo tipo al telefono, mi sono messo d'accordo per domani mattina, capito, quindi lo... ti ho detto, aspetta un attimino. No, ho capito, non pensavo di aver telefonato, ma se non perditi di mollare, così ho capito. Non esagero nulla, uno deve usare che c'è la medicina giusta, non nessuno usa di nulla a me. Ascolta, ma Daniela Burubucci? Vedi? La regolazione della strada. Allora, vabbè, lei la metto in mezzo a quelle che vanno al ristorante a mangiare, no? Ascolta, invece di portare a Daniela, ti do Guanna, prima dell'inaugurazione, tu tiri, mi vesti a tre, ma le cudi l'impita e cudi oggi. Ah, vai, poverina, cazzo, io l'ho fatto bene, non la dipensi. Ricorda che Galileo Vecchia fa buon buon, tu non lasci apprezzare la cosa. Vabbè, chi sia Gallina Vecchia o Gallina Giova, tu, dove eri in confusione, no? Contro la confusione, e con l'impita tra quella trema. Ah, no, ma non dici niente, ma già ti ho chiuso la porta, se non ti sta ascoltando, vero? Massimiliano ha detto che ci vai in inaugurazione domani, che c'è l'inaugurazione della strada di Urbia. Ci vai con Massimiliano? Non faccio altro. Non ci vai? Non faccio altro. Perché? Hai paura? Ah, che ti sei curi da tre, ma vai! Oh, dire a tu cosa hai detto, questi di cui a buttarcela io non li avrei mai, mai detto, dubbio non me l'hai detto. Io ti ho detto di trattarla bene. Ecco che non ci viene, no? Non ci viene perché ha paura, capito? Che io le sto facendo gli agguati. Che idea, cisci, cisci. Io, fra, ma che altro c'è senza vedere Anna? E tu lo sai, tu ci conosci bene, lo soffra. Ui, prova com'è, per carità. Scendete in AM, cazzo, che non ce l'ho l'FM. E non siamo in AM, ma andata lì, mica siamo in AM. In AM. In AM siamo, oi. Adesso sì. Mica Gianfranco ti sta chiamando, Natalia, ti abbiamo chiamato poco fa. Ma non ci sono riuscito a mettere le MD più 4. Oh, un casotto. Un casotto è a chi si è nervoso e non è gana, se no non è un casotto. Sì, vabbè, là, all'inizio di attorno. Ma già ti sento io, vai Massimiliano. Ma che io ti sento, avvicinati un pochino più il microfono alla bocca, Natalia. Sì, ma io lo sento, il segnale non è neanche così male, è 9:10 qua, A me sta dicendo, Massimiliano. Allora, a me sta dicendo, se 9:10 il segnale. Lo so, ma c'ho il microfono normale, c'ho questo cazzo d'apparecchio feo, non va né FM, né un cazzo, nulla. Cosa di Mafuti? Non portate ad ascoltarci, cosa di Mafuti? Non siamo sempre a me. Ah beh, là, già sono qui, già vi ascolto, non c'è problema. Ma con quello lì, Natali, disturbi lo stesso, anche con quello lì. Ma me ne frega niente se disturbo con questo, lo sto coprendo a puglia. Ma io ti do un consiglio, Natali, non puoi farmi arrivare in due. Ma se questo qui c'ha l'antenna tutta buffa male, con l'antenna buca, vedi io, gatti, vi la buffareggio, vi rabbiati, lui si sistema tutto. E così puoi usare pure l'apparecchio che ti pare di piazzi, e non ti perdere per 20 euro. No, stanno facendo un coso per farmi togliere l'antenna, tu non hai compreso che ci sono i feriti. Ah, va per un po' sta puglia, e stiano attenti a non gliele spargli gli antennetti, due non ne vedono più. Stanno facendo un esposto per tenermi l'antenna da dove l'hai messa. Ehi, chi cazzo, mamma mia. Non lo so allora. Facciano l'esposto, so che in regola io, ho l'apparecchio omologato. Se disturbo si cambiano l'antenna, fanno il cazzo che vogliono. Io, a me loro l'antenna non ce la fanno, tutto ammorso a farmela togliere. E poi li denuncio pure, mi pongo un avvocato, diffamazione e stalking, le voci. Natali, io non lo so com'è lì, però vabbè, la facciata non l'hai rovinata perché i due tasselli di quella parabola abbiamo piazzato erano già esistenti, quindi la facciata non è bucato nulla, hai preso un tubano, cazzo non disturba quello di su, cazzo, che c'hai il radiale sopra la sua antenna, se ti vedi. Ma io c'ho l'amplificatore d'antenna qua, dovrei disturbare prima di tutti a me, poi a quello dell'altra parte del e non v'è giunto, chi si di fronte no, non li disturbo, quelli di fondo sono che stanno rompendo il cazzo. Ma magari allora neanche li disturbi, però hanno visto questa antenna, questa cosa, capito, magari, non lo so. No, c'è il figlio di quello stronzo che sta mettendo zizzania per farmi togliere l'antenna, già ne hanno fatto togliere una di antenna qui. Però a me non vi ravvazzini, ma cosa io la concessione raggio, sto qui in regola, E loro non ce la fanno a farmi togliere l'antenna. A parte il cazzo che hai su, dice ai bidetti come tracciato. Se mi dici una cosa è fottito, non me ne frega nulla. Natale, non ti arriverà a fottire bene. E poi la parte della ragione e passa la parte del torto. Tu lasciaglielo fare questo coso, a lui. Se... vediamo poi se chiamano proprio loro le scoperte, vediamo un po' se disturbi veramente. E a voi magari tutta la cosa va fatta di bucare l'antenna. Sto dicendo, io sono contento se vengono a controllare. Tanto io non disturbo, perché sennò avrei disturbato a tutti. E infatti, avanti qua. Gappa, gappa, gappa. Però, bisogna... vabbè, niente. No, ci vediamo una tena e parliamo in persona. Capito miei? Ti sto dicendo, se loro insistono finisce male, perché mi metto l'avvocato e li denuncio e mi pagano per nuovo, mi? Certo che sì. Comunque loro non possono toccare niente perché la facciata è la tua, quindi noi abbiamo lavorato in facciata, il lavoro è fatto bene, ordinato, pulito, in sicurezza, l'antenna nuova, il cavo nuovo, è tutto nuovo. Si dice imbecille, si giamba l'antenna e il problema persiste, arrivate alle mani e vi vedi male. Sì, ma il problema è che poi cioè, non è stato fatto nessun buco da parte nostra nel muro storico e tutte queste cosettine qua, no? Cioè, quei due bulloncini dove abbiamo avvitato la staffa della parabola c'erano già, non li abbiamo messi noi, capito? Infatti invece ne abbiamo usato solo due, abbiamo usato quelli che c'erano già in facciata, quindi noi facciata non avevo più bucato che diverso. Ma poi la mia la facciata, cosa cazzo dei venerdì? E dove mi ha fottuto da Massimiliano? Quello è un vicolo privato, le facciate sono dei proprietari delle case, quindi non è un centro storico, come posso dirti, Corso Trinità facciata, il Duomo e tutte quelle così. Quello è un vicolo di proprietà privata, ok? Quindi Matteo si è attaccato alla sua finestra, tra l'altro la finestra di Cesare, ok? Quindi non devono rompere le palle per niente su quel lato lì. Il problema è che questo imbecille rompe le scatole per il semplice fatto che disturba la televisione, punto e basta. Però si è presentato dopo 10 giorni il problema, perché noi abbiamo fatto tutte le prove e non c'è stato nessuno che ha detto basta, quindi. Sì, ma per 10 giorni è andato tutto bene, adesso lo disturba la televisione, io non vi credo. Chi c'è una puntiglia e chi si offende, fammi la buca. Perché Natalino ha usato quella radio per più di 10 giorni. E quindi il 10° giorno è andata a casa sua e lo disturba. Se mi disturbavo, mi disturbavo anche dal 1° giorno che ha iniziato a modulare con quell'antenna, no? E quando via la tua vita antennino non lo disturbavo di più se paghi. Infatti, pare di funzionare la cosa. Lì è, cioè, secondo me, la farì più che altro per l'antenna, gli aveva mezza puntiglia, secondo me, capito? Quello si fa male, che è una palla di lardo. A quando a muoversi lui gli ho tirato 50 pugni a faccia e 30 parate di bini. Io te l'appoggio. Positivo, dai. Avanti, Franco, io mi faccio altri due passaggi e poi mollo, Avanti per te, Franco. Io conosco Natalino, capito, che è stato sempre molto disponibile con tutti, quindi se lui era andato lì e a Natalino gli avesse detto guarda, c'ho questo problema, la grande ha piazzato l'antenna, ho questo problema, vogliamo fare che cosa? Natalino ha detto non ti preoccupare, io ti sto disturbando, domani ti pongo a posto tutto, sarebbe andato, gli avrebbe messo a posto l'antenna e tutto il sistema, perché c'è un sistema tutto annato isolante, tutto intaginato, capito? Invece è andato Natalino con la prepotenza e con la mania di invaghi sa cosa, e Natalino l'ha mandato a fare in quel paese. Bisogna anche presentarsi con le persone, no? Perché sono convintissimo perché lo conosco a Nattarino io. Sarebbe andato con i dovuti noi, Nattarino avrebbe detto vabbè, ok, già ti risolvi il problema, e l'avrebbe messo a posto, e invece è andato con la prepotenza, è chiaro che Nattarino si è incazzato e già la trova a fa e sono sicuro che se continuano va a finire male, capito? Quindi è così, vabbè. Ciao motopompa. Via, sono entrato, ero giù e sono risalito su, sono andato a posto adesso. Che provincia la Tarino, scommetto che quello di fronte a casa sua, quello del piano terreno che c'è il bar di fronte. Vabbè, ok Antone, anche tu sei impresinato per i fatti tuoi. Va bene, ok, comunque fra, noi abbiamo fatto un lavoro eccezionale perché a montare con l'antenna abbiamo fatto molti sacrifici, sia io, sia Massimiliano, sia Nattarino, sia Cesare, cioè abbiamo fatto un bel lavoro, e poi sentirti dire che sei di tuoi bendi a me mi dà fastidio sinceramente, però non è un problema di Nattarino, è un problema che gli capita da puntiglia, capite, chissà cosa vuoi. Forse vuoi che Nattarino le possa l'impianto nuovo della televisione, chi su voi, mi capito? Nattarino con 40 watt non disturba la sua televisione che è attaccata, se tu passi è attaccata, Nattarino è lì di fronte al tabacchino di ricorso 30, tu passi, vedi l'antenna è attaccata alla sua antenna TV, attaccata, i radiali toccano, e i radiali toccano anche agli altri antenne TV, non disturba nessuno, nessuno, solo lui che è imbecille, parla di Lardo, di Lardo. Comunque noi le prove abbiamo fatte per 10 giorni, Antonino sta facendo mega forte a 40 watt, no, non disturbava nessuno, è apparso questo nell'ombra dopo 10 giorni a rompi l'anima, capite? A rompere i gamagisi, brutto cornuto che lo scegliere detto che è un cornuto, Antonino. Oh, classica. Deve fare come ho fatto io, di qua. Ti ricordi che ho avuto problemi, abituando, ho pensato l'antenna della V, eccetera, eccetera, che è venuta a casa, ma tu dice, se non attacchi tutto, dice, non è attiva, dice, di luce, non è attiva, e tu hai sbagliato, hai giocato la concessione. Dopodiché, sai cosa ho fatto? Ho preso, ho attaccato il lineare, siccome la centralina era quella che era, gli ho incendiato la centralina. Sono stati a mezzanotte a regolare, non regolavo più niente, finché non ha chiamato il tecnico, quello che conoscevo io, che è Babu Sente, un pochettino. Ha preso mal di tu, Antone, tu c'hai ragione, mandala a cagare, mi ha detto. E il caso Mutumi ha capito la centralina, non mi ha più cercato. Quindi l'unica cosa che l'antenna deve fare è questa. E attacca il lineare per 3-4 minuti. Una volta che gli incendi l'amplificatore che ci ha agganciato in quell'antenna, sta tranquillo che lui c'è, già si cambia impianto, sto dico io. Ma comunque, per me è una questione di puntiglie e basta, però ti ripeto, se uno va con i dovuti modi a chiedere le cose si ottiene molto di più, capito? E invece gli ti ha fatto di qua, che è Nattarino, conoscendolo so perfettamente come ha reagito. Vabbè. Va bene, signori belli, è pronta la cena, è stato bello chiacchierare, trascorrere quest'oretta con voi, ma roba Giovanni. Ciao Massimiliano, ciao Franco, ciao Antonello, ciao Nattarino e tutti quelli che sono in ascolto, ok? Vado a cenare, buona serata a tutti, il cambio per Massimiliano. Sì, va, sono anch'io aspettando a rilanciarmi, che anch'io mi allontano, va. Vado a mettere qualcosa sotto i denti. Vi rinnovo i saluti con la buona serata a Franco, Nattarino, Antonello, Claudio e tutti quelli che stanno ascoltando con gli orecchi di porco. Ciao ragazzi, buona serata, ciao ciao. Ciao Massimiliano, ciao che Claudio. Ciao Massimiliano, buona serata. Ciao Claudio, signora. Alla prossima, grazie per la chiacchierata, mi avete fatto poi compagnia. Antonio, mi senti? Bocconi, no? Tu, Nattarino. Tavino. Antone. Ciao Tavino. Oh, un attimo, sto facendo cosa. Ho capito. Sto facendo cosa? Eia, ti stavo dicendo che se vuoi massacrarlo, almeno che poi non ti rompa più le palle, mi ti presto il quagliare che ho io, 100 watt. Sta tranquillo che gli si accende il ricevitore e non ti rompa più le palle, a tutti i fini.